stream, ma comunque succede questo rituale e dai vari punti di vista di una certa persona osserviamo quest'uomo appeso all'interno del nucleo di una centrale con queste grandi corna, si scambiano qualche battuta, questa persona chiede a questo prigioniero: vuoi provare a scappare o vuoi fare 5 minuti di caos? La persona sceglie i 5 minuti di caos, si riesce a liberare grazie a questa altra persona, fa una strage, però poi viene bloccata e riportata nel nucleo. E ricominciamo da qua. Per stasera è importante che apriate tutti i Roll20. Sì, sì. Mi spiace. Con... Bravissima, Rox. Non ho bisogno di farvi altro riassunto, secondo me c'era già tutto quello che serviva. E ripartiamo esattamente da dove le abbiamo lasciate. Cioè, è appena stato completato il rituale, avete avuto tutti questa visione, in mancanza di termini specifici diversi. E quindi siete tutti all'interno del cerchio. E quelli di voi che avevano dei contratti, ora non li hanno più. Quindi se avevano degli effetti su di voi sono stati cancellati. Nello specifico, Zanzan e Ivan perdono alcune memorie, alcuni frammenti delle loro memorie riguardanti il loro lavoro. Gli altri credo che fossero tutti fuori dai contratti. Non mi viene in mente nient'altro da dire, quindi ditemi voi cosa volete fare. Siete tutti all'interno del cerchio, quindi la mappa di Roll20 al momento non è corretta. E potete oltrepassare la barriera. Devin, Kjell è all'esterno del cerchio, Devin è insieme a voi, Batu è insieme a voi. Come reagiscono? Cioè, ha visto anche loro la visione sul nostro Sì, gruppo. l'avete vista tutti. E Batu è visibilmente sbigottito. Devin è più infastidito che... Che Yale è impassibile. Roba costa tranquillo. Va bene, a parte che Yale. Sembrerebbe che abbia funzionato e che ora possiamo parlare di quello che volete. Cosa abbiamo appena visto? Sciogliere il contratto richiedeva, cioè sciogliere tutti i contratti richiedeva che io dessi del potere a un'entità, la quale si è appena liberata. E beh, è quello che succede quando si liberano le entità in generale. Quindi Che hai entità dato era? del... Vabbè, vai. Suo nome è Quibble. Quando dice sta cosa guarda Batu. Batu alza le sopracciglia e dice: patto! Kjell annuisce e aggiunge: sì, ho fatto un patto con Quibble. Tant'è che, e slaccia leggermente la camicia, questo segno che ho sopra è il suo sigillo, che è uguale a quello tracciato per terra. Al netto di, e guarda Erindor, una piccola modifica. Entità sarebbe questo Quibble? Qualcosa come il diavolo dei cavilli. Checks Il diavolo dei out. cavilli. Ok. Come sei finita a farci un contratto? Una lunga storia. La versione breve è che ho lavorato per un periodo alla centrale di Singida e sono entrata nella porta sbagliata. Sembra Come noi? familiare, vero? Proprio. Ed è lui che ha trovato Devin ti quel tizio. interrompe, cioè si accorge che tu stai parlando e ti interrompe e dice: aspetta! Voi siete stati nel nucleo della centrale? Beh, Io sì, dice Zanzan. E ne siete usciti incolumi? Io sì, più o meno. Direi più o meno Siamo tutti. qui, quindi non tantissimo. Sì, lei è così. Lei non sta bene, ok? Voi state relativamente bene. Sì, direi che è più il danno Adesso. psicologico che... Cosa c'era dentro? Tu non lo sai? Wouldn't you like to know? No? Sì? Ora che non abbiamo più contratti che rispondono. C'era ciò che genera il mana, ovvero una persona che credo fosse un avatar. E quindi mi stai dicendo che non sono una leggenda gli avatar? No. Naya, quando che il discorso e dice in realtà non penso che fosse solo un avatar. Cioè? E non dice più niente, cioè è ancora scosso da tutto quanto, è confuso e non capisce più un cazzo neanche lui ancora. Devil gira lo sguardo su ognuno di loro, che Yel è abbastanza neutra a questo punto, e guarda prima Batu e dice: a te non ti chiedo un cazzo. E poi guarda gli altri, più o meno la stessa reazione su Zanzan. Su Naya non ha più detto nulla, Adone è tipo: non mi sembri il tipo da sapere qualcosa in più. Ivan, neanche tu. Ho Erindor e Gideon in ordine. E su Erindor dice: tu sapevi questa cosa e non mi hai detto niente? Sai com'è il contratto? Ha senso, lo apprezzo. E per te non c'è niente di strano? Allora, ammetto che è stato uno shock all'inizio. Di certo non è una roba da tutti i giorni scoprire che il mana viene generato da so-called entità dei, però è la realtà dei fatti. Cosa possiamo fare se non attestare la verità? Annuisce non convintissimo, guarda Gideon e dice: tu vieni da un altro posto senza centrali, giusto? Sì. Se quello che stanno dicendo è vero, da voi ci sono ancora le divinità? Non esattamente. È troppo complicato da spiegare, non lo capiresti. La tua arroganza non ti porterà molto lontano, amico. Detto questo, abbiamo un lavoro da svolgere. Sono dell'idea che vorrei approfondire questo argomento, ma non vorrei che ci scoprissero. Che Yel ha detto prima che ci vorranno 2 o 3 ore. Che okay, facciamo? Meglio. Vogliamo passarle a parlare o... No, no. Possiamo fare entrambe le cose. Si ferma un attimo e dice: che Yel, perché i contratti non hanno funzionato? Non ne sono sicura. Credo che ci fossero un insieme di effetti contemporanei. Non mi era mai successo prima di vedere 6 fallimenti in un colpo solo. Però erano tutti fallimenti diversi. Non ne ho idea. So solo che i 6 contratti che avete firmato effettivamente non hanno nessuna regola. È come se aveste tracciato un segno su un foglio qualunque. E questi contratti ce li hai? Ce li puoi far vedere? O... sono letteralmente carta straccia, non li ho conservati. I contratti magici? Ah già, li ho risciolti tutti. Ops. Beh, i contratti magici li posso materializzare. Strapparli non serve a niente. I contratti tradizionali sono pezzi di carta, quindi si possono strappare. Scusate, out of character, ma non mi ricordo. Noi avevamo scoperto chi fosse quella persona che era l'avatar dentro il nucleo? No. No. Cioè, io no. E in generale vorremmo scoprirlo, o okay, è una, oppure tipo una di quelle, cioè che Yel saprà qualcosa probabilmente. Vuoi chiederglielo? Che chiediglielo in character, che è un bel look. Ok. Che Yel, a proposito del nucleo, tu sai chi fosse quella persona? Ah sì, che abbiamo trovato dentro a Occhica? No, non ne ho idea. So che il nucleo era rimasto untouched da prima che io nascessi, quindi diciamo una 40 anni che c'è la stessa persona dentro. Ok, sapevi... quindi scusami 40 anni, quindi dopo che siamo arrivati noi è successo, cioè... Era la è prima... finito. Non ho capito se era stata appena rimessa un'altra persona. No, erano da 40 anni il nucleo non veniva modificato, diciamo. Cambiato. Maschera di ferro ogni tanto entrava al suo interno per svolgere piccole riparazioni, ma non ha mai modificato nulla, non è mai arrivato nessuno a cambiare qualcosa. Se è vero che serve una persona, non è mai arrivato nessuno, nessun cadavere, nessuna persona al suo interno. Le chiedo... Scusa, che tu sappia, solitamente mettono persone comuni o c'è qualche... Non ho la più pallida idea. Non è questione di averlo scoperto, che è solo che non ho la minima idea di come funzioni questo genere di cose. Non ho mai scoperto questa cosa, né col contratto né altro. Credo ci sia una commissione che si occupa di queste robe ed è sicurezza internazionale. Il segreto meglio custodito del mondo, se vogliamo. Ok. Volevo chiederle, sapendo anche degli altri incidenti e tutto, bla bla, se sa qual è il downtime di una centrale quando succede qualcosa con l'avatar che devono sostituirlo. Vi ripeto che l'idea che ci sia un avatar per me è abbastanza nuova. Credevo che la centrale di Singida fosse atipica e che al suo interno ci fosse Quibble, ma che nelle altre centrali funzionassero in modo più organico. Quindi no, non ne ho la più pallida idea. So che altra domanda. Scusami, non ti volevo stoppare. Mio padre è stato lì a Singida o era un altro? Ah, ho visto mini espressioni in faccia. Sì. Ok, dopo. Tuo padre... Continua. Dice subito. Tuo padre ha contribuito a creare a costruire la centrale di Apreira. Non so se hai presente dove sia, è in Achaias, a sud-est della Solveria. Ti parla così perché dà per scontato che, essendo tu la persona che sei, non sei esattamente into the geographic game. Pianic. Dimmi. Apreira è la centrale hanno lavorato i genitori di Silas? Probabile. È stata fondata nel 1590. Io avevo un anno? Sì, comunque non me lo ricordo. So che hanno chiamato gente dal nord per costruirla e molta gente dal nord per catturare dei terroristi che volevano impedirne la costruzione. Non è mai stato trovato il cadavere di alcune di queste persone, una delle quali tuo padre. Pensavo se la fosse sbagliata. No, credo, niente. Credo che abbia fatto una fine peggiore. Tu avevi detto che sapevi di più su quello che... sul sigillo che io e Adone abbiamo visto. Sì, so... E che ce ne avessi parlato. Adesso. Quibble mi ha insegnato un sacco di cose sui sigilli, che gli piaccia o meno. E... quello che avete viene chiamato sigillo di Braxaras, giusto? Avete saputo anche voi questa cosa? Non esiste un diavolo di nome Braxaras. Quindi... è qualcun altro che usa uno pseudonimo. Ah. E anche il sigillo stesso non so se corrisponde a qualcosa di reale o meno. Inoltre si può cambiare l'effetto dei sigilli. Il sigillo che avete visto voi ha cambiato effetto e il suo unico effetto è quello di farvi impazzire. Tra l'altro, ora Naya non vedi più tutti i simboli ovunque. Hai perso il tuo migliore amico. Ehi. E un sacco di altre brutte cose. Il problema è dove abbiamo visto questo sigillo. Lo avete visto all'interno della centrale, deduco? Esatto, nel nucleo. Ok. Esistono dei sistemi non creati dalle centrali, ma quantomeno da Quibble, per ricreare il sigillo nel momento in cui Lost, diciamo, perda la vita. Questo è un suo modo per autoconservarsi. Quindi potrebbe essere una cosa che nemmeno il personale della centrale sapesse, nemmeno le alte sfere. Però non so moltissimo sull'argomento nello specifico, perché ognuna di queste creature è diversa. Ma quindi quel sigillo era legato all'entità che ci tormentava? No, credo che quello che avete visto voi fossero solo allucinazioni. So che il sigillo veniva utilizzato in altri ambiti proprio per fare impazzire le persone, e l'allucinazione corrispondeva agli eventi più traumatici delle persone che venivano esposte al sigillo. Sarà stata tipo una trappola, un antifurto, in caso qualcuno si avvicinasse. Agente cognito sì, hazardous. Sì, è quello che stavo pensando. Quello che stavo pensando anch'io. Adone prende un attimo la parola e dice: per quanto io sarei curioso di discutere di altro, credo che mi converrebbe fare in fretta. Non vorrei che i militari ci trovassero ancora qua o ci trovassero prima di delle tre. Vedi ore. Gli ingranaggi che Yel vibrare leggermente, e lei che aggiunge: sì, e credo che Ren abbia un tempo limitato. In che senso? Zan Zan non ti ha comunicato che stiamo andando a cercare un modo per salvarla? No. Sì. Io guardo Zan Zan. A tavolo. Avevo detto. No, allora no. Un attimo. Errore mio. Redacto. Okay. Redacto. Scusate. Allora, sì, allora Don dice... D'accordo, allora... Possiamo conversare lungo la strada. Devin, devi fare strada tu. E nel mentre, mentre andiamo, Adone vorrebbe evocare il suo famiglio, il suo buon... E mandarlo a fare le cose. Allora, ti segno il costo e l'esperienza. Ok, grazie. Quanto costa? Uno? Due? Cazzo, non ho aperto la scheda, cazzo di culo. Lul. Schede Fateless, Summon Familiar, costo 2. Sì. Allora, vai a 6 di esperienza. Me l'ha spiegata in privato cosa fa, ma la versione breve è che... Paghi con la fatica o col mana? Mi ricordi qual è la differenza? Niente, paghi col mana, perché il mana dice paghi prima il mana della fatica. Infatti, comunque avrei pagato col mana. Ti do una moneta di mana anch'io, perché tipo il francobollo, dai. Non funziona così. Non è il mana pen, non è il mana penny. Paga col mana suo. Ah, sorry. Non è una spesa delle... Con il sudore. Sì, esatto. Perché apprezza, cioè, se lo fai a Adone apprezza il gesto, cioè comunque ti ringrazia, Ok. Sì, ecco, glielo dovresti spiegare tu che non funziona così. Sì, se mi offri il pen gli dico... purtroppo con questa magia devo utilizzare il mio di mana. Non posso utilizzare i mana penny. Ok, però, comunque ti devo un favore. Non preoccuparti. Ah, dopo voglio dirti una cosa. Appena finito con questo. Vedete che Devin sta camminando con una mano su un occhio. Ok. E lo vedete che tipo è un po' incerto, nel senso ogni tanto sembra che stia per andare addosso a degli oggetti, ogni tanto sembra che stia evitando degli oggetti che non ci sono, quindi si muove un po' in modo barcollante. Naya mi fa un D10. We fucking love to roll. Naya, ti prego, se devi fare schifo ora non è il momento. Rolla per fumare. Quanto hai di dialettica? Dio porco, ce ne ho... Sei due. A pelo, sei proprio a pelo. Quindi hai una... Inizi a tremare, hai un brivido lungo la schiena e ti tremano le dita proprio. Hai presente quando hai una bruttissima sensazione? Tu hai già visto questa strada. Non sei mai stato negli outskirt di Oclica, in vita tua, mai, e tu hai già visto questa strada, e ogni singolo elemento che ti circonda è una cosa che hai già visto nella posizione esatta in cui l'hai vista. E per gli altri non c'è sto fenomeno, ok? È un posto che vedete per la prima volta. Anche per Ivan, non sei mai stato nella campagna di Oclica realisticamente, e se ci sei stato non sei mai stato in questa zona specifica, cioè è proprio una viuzza maledetta secondaria in una campagna. A fianco a voi c'è un percorso sterrato, diciamo, non ci sono delle mattonelle per terra, è solo sterrato, al bordo dei quali ci sono dei muretti che avranno un migliaio di anni, infatti sono tutti diroccati, è proprio rimasugli di un'epoca molto antica. E ci sono degli alberi e c'è una leggerissima nebbia, cioè si vede, però avete presente quando c'è quel rimasuglio di nebbia per gli Adania Cor. Sì, esattamente, quel vibe lì. L'ambientazione è estremamente silenziosa, cioè non si sente niente, e appena vi allontanate dalla casa è anche completamente buia. Cioè, è proprio pitch black. Non so se uno di voi ha un metodo per fare luce. Devin... Io sto volendo, però posso scegliere me stesso con City sì. Light in modo che rimanga sempre a girarmi attorno? Sì, se lo vuoi fare te, lo fai te, altrimenti faccio la scenetta in cui loro dicono no, non si vede niente. Come preferisci. Possediamo sempre un grande fiammifero. Io dall'ultima missione, dalla scorsa missione della cosa, ho imparato una magia che mi permette di vedere, quindi uso Seeking Light su un ciotto. Ok, come ad Eddie ti segno l'esperienza, il costo e basta. Guardo se fa della roba extra col fatto che c'è... Ah, si muove più velocemente adesso. Vibra più velocemente. Sì. Se no wings. Allora, è Erindor a fare luce. Fa luce, praticamente c'ha un sassolino che brilla di luce propria dietro la sua nuca, sopra la sua nuca, dietro ma sopra, capito? Cioè, posizionato. Ok. Ok. Ok, no, vedete una bella area, una quindicina di metri, per bene. Puoi disattivarla in qualunque momento. Devi stare per forza o di fianco o subito dietro a Devin, perché altrimenti non vedete dove andate. Va bene. Vicino, dai, okay. Di fianco, gli faccio compagnia, gli okay. Tengo la mano. Per favore no. No, scherzo. Troppo okay. Tardi, l'hai detto. Vi rivelo molta più area. Ok, potete ordinarvi come volete. A un certo punto Devin si ferma e si gira verso Batu, sempre con un occhio chiuso dalla sua mano, e... gli si avvicina proprio in modo strano per Devin, gli tocca il petto e dice: tu hai quell'abilità che ti fa correre velocissimo, non ci serve un altro tipo forzuto, c'è già il berber, l'orso, lui basta e avanza, quindi tu fai da guardia e corri a chiamarci se qualcuno si è accorto che siamo andati via, va bene? Batu vi guarda un po' a tutti per vedere le vostre reazioni, mentre Devin è super convinto di quello che sta dicendo. Tipo spaccare un dito. Just for fun. Sì. Iniziamo. Intervenendo. Sicuri che valga la pena. È un po' utile in questo momento, oh, Devin, okay, quindi... okay. Ma mi sta antipatico, lo so. Adone dice è utile questa cosa, nel senso non, cioè non... anche se corresse a chiamarci si accorgerebbero quelli dell'esercito che lui è scappato, quindi... Può fare da guardia e grazie ai suoi sensi potenziati può vederli prima che arrivino. Così nel peggiore dei casi riusciamo a tornare prima che scoprano che ce ne siamo andati. Non sono troppo convinto, però non ci perde niente, Batu, credo. Quindi... Io fare quel che serve per aiutare. Grande Batu. Grazie Batu. Fa tipo un saluto. Scusatemi, generico. Quindi Batu starebbe a fare da guardia, ho sì, capito bene. Ritorna indietro e fa da guardia. E come fa a segnalarci qualcosa? Se... Un bicchiere d'acqua, scusate, arrivo sì, c'ha la skill per correre super veloce. Fair enough. Urba Batu. Sembra che siate tutti d'accordo con questa cosa. Devin è soddisfatto e dice: riprendiamo ad andare, ora aspettiamo Eddie. Allora, la roba che mi hai scritto, Rox, vuoi che la facciamo in privato o ti scrivo? Cioè, lo possiamo fare a voce? È uguale. Dai, facciamola alla voce, tanto. Vai, vai. Allora, tu che simbolo le hai fatto vedere dei tanti? Ti chiederei di chi, ma tu non sai di chi sono, quindi... Il nostro preferito. Eccomi. La camera non sta mettendo a fuoco un cazzo di niente. Ah, sì. Quello di sotto col triangolo e i quattro lineette? Quello del libro. Ok. Lo guarda un attimo e dice: è disegnato in modo crude, cioè fatto un po' male. I sigilli demoniaci sono fatti molto meglio, sono precisi, rigorosi. Quindi no, non credo abbia niente a che fare con loro. Quindi tu non hai idea di niente riguardo a questo? Non mi dice nulla, no. Perché? Okay. Hai a che fare con... Perché la strada che stiamo facendo è vagamente familiare, ma io non sono mai stato qui e... L'unico momento in cui ho visto qualcosa di simile è stato durante una visione causata dal sigillo. E lei... se quello che mi hai detto prima è vero, non ha molto senso tutto ciò. Sicuro che non hai mai avuto a che fare con qualcosa di strano? Qualcosa non diabolico, qualcosa di inspiegabile. La ferma e dice: sì, però non sono mai stato qui, cioè questo non l'ho mai visto, e indica il posto e le spiega di nuovo appunto che è il fatto che riconosca un posto in cui non sia mai stato, che è la cosa che non ha senso. Infatti sembra non collegato strettamente al sigillo, potrebbe essere un effetto di un'altra entità. A questo punto non so più in cosa credere, però se esistono gli avatar ed esistono i diavoli, non credo perché non debba esistere dell'altro. Ora è senza fede, è fede. Ha detto il titolo. Ok ragazzi, l'abbiamo portata a casa, è stato up five, gang. Nulla di concludente purtroppo. Ok, io vi do validissimo. Un quartino d'ora per discutere con gli NPC, per discutere tra di voi di quello che volete. E poi vi dico cosa Oddio. Succede. Io vorrei parlare con Ivan, appunto. Vai. E dopo che ho appunto mollato l'obnuo per la sua strada, ho una domanda, scusa Biannis, che devo farti. Upcastare la spell aveva senso? Che senso upcastare? Perché se spendo più uno, che è un animale più grosso, però non mi sembra sensato. Ce l'hai già? Secondo me non ce l'hai ancora. Ah no, ce l'hai ancora, ce l'hai già. No, non ce l'hai ancora, devi fare ancora dei punti di naturale per poterlo summonare al 2. Ah, my bad. Sì, manca ancora un pochino, poco. Ok, scusami, allora niente. Comunque, Adone ti si avvicina e dice... priva ho sentito che Keyel parlava della centrale di Apeira, e questo è il nome, giusto? E... che tuo padre è stato coinvolto nell'incidente. Sì. Ti devo dire, io non ne so tantissimo di mio padre e il suo lavoro, so soltanto che l'hanno chiamato per fare questo lavoro e lui ovviamente aveva bisogno di soldi ed è partito e non è più tornato. E da quel momento in poi sono stato io a essere l'uomo di casa, diciamo. Ah. Beh, mi dispiace, comunque non deve essere stato facile. Sì, diciamo che sono qui stasera anche per capire un po' qualcosa di più su questa cosa. Apparentemente qualcuno ne sa di più. sono interessato anch'io in parte a questo, perché conosci mio marito Silas. Sì. Non mi ha mai parlato troppo di questa cosa, nemmeno non me ne ha parlato, ma il fatto è che anche i suoi genitori sono morti nell'incidente, nella costruzione della centrale di Apeira. Erano operai? No, erano... Che termine devo usare? Bianni, universitari, sì, studiosi, ricercatori. Sì, ricercatori. Dei ricercatori, degli studiosi, quindi no, non operai. Ok. Però anche loro sono morti, da quello che so, per a causa di fallout del materiale, quindi una cosa anche abbastanza comune, nel senso non comune che ci sia un fallout, ma comune che poi muori. Lo state dicendo in segreto o vi sentono gli altri? Libero. Mi posso sentire, sì, non sto parlando a bassa voce, sto parlando normalmente. Kiel... Gli stiamo dando la schiena, tipo, okay. Ma ci Kiel sentono. Sarcasticamente dice, sì, penso che domani diranno che qualche centinaio di persona è morta a Singida per un fallout del materiale della centrale. Ok, Adone si gira e cosa dice... avrà voluto dire? Ah. Naya le chiede cosa significa. Che il materiale delle centrali non fa fallout. Non causa morti direttamente. No. È ciò che liberi che causa le morti. Quantomeno a Singida. Ma in generale il materiale grezzo è pericoloso solo se viene innescato da una magia. Quindi serve qualcuno così stupido da attivarlo. Potrebbe essere stato mio padre. Non so i dettagli. E comunque chiamarlo fallout è, nel migliore dei casi, un eufemismo. Sì. Ma quindi le mutazioni degli animali intorno alle centrali come si spiegano? Non ho più pallida idea. Ma quindi è legittimo pensare, lo sto dicendo in character, scusa, è legittimo pensare che ogni volta che è stato riportato un incidente di una centrale con morti per qualsiasi tipo di causa, era qualcosa che aveva a che fare col nucleo? Kiel guarda in alto, ci pensa un attimo e poi dice, da quello che mi risulta ci sono stati 4, forse 5 incidenti legati alle centrali stabilite. In tutta la storia, negli ultimi 80 anni, quindi è un evento più unico che raro. Mentre alla creazione delle centrali ci sono sempre un sacco di problemi, cioè metà dei politici famosi che hanno a che fare con le centrali sono morti alla costruzione di una centrale. Diciamo che le statistiche non si possono ignorare. Quindi sì, è probabile che abbia a che fare con qualunque cosa facciano per costruirle, che è un segreto di Stato e quindi non ne ho idea. Ma vagamente legato a questo, hai detto che tramite i contratti, che le anime delle persone vengono legate dai contratti che fate. Uh-huh. Quando una persona muore a causa di questi contratti, cosa succede? La sua anima viene harvested da Quibble. Cosa significa? Significa che la sua anima diventa di proprietà del tizio che mi ha resa così. Parlando di come tu sia diventata così, tu non hai... Cioè, scusate, adesso domanda. Noi abbiamo cioè, un attimo out of game. Abbiamo capito cosa sta succedendo a Ren, al vescovo, a Keyella? No, non lo sappiamo oggettivamente. Oh, un cazzo no, di no. Niente. Siamo... Sappiamo Stiamo tecnicamente che buio. Sì. Sappiamo che allegedly sia una specie di virus, pseudovirus magico. No, no. Allora Adone proprio lo chiede a Keyella e dice, riguardo a questo, tu hai idea di cosa siano queste mutazioni? se parli di quella che abbiamo io e che ha avuto Lydia, qualche forma di malattia, non so i dettagli. E il motivo per cui non ho fatto la fine del vescovo è che Qibol mi ha protetto, perché gli servivo per fare quello che ho fatto stasera. Capito. E In effetti, ci aspetta. pensa, c'ha una teoria di realization. Ora che ho finito il mio scopo, sarebbe interessante vedere che fine farò. In che senso il tuo scopo? Mica stavi Zanzana tipo la facendo. mano. Ma questo non significa che c'era della prevegenza? Sì. Tu hai detto che hai fatto, che ci hai tolto, che hai partecipato a questa situazione per pura noia, ma da quello che stai dicendo adesso non sembra. Diciamo che non ci avevo pensato fino ad ora. Il nostro amico Berber non ha tutti i torti. Sì, sembra che qualcuno abbia previsto le mie mosse. E che quindi quel qualcuno. Non c'è alcun elemento della sorpresa in questa situazione. Non lo so, Quindi questo effettivamente. è chiaramente l'volere di un dio, dice Zanzan. Ed è abbastanza quasi contento della cosa. O del suo contrario. Nonsense. Piccola parentesi teologica off character. Il concetto comunque di divinità in questo mondo non è il dio monoteista onnipotente, Mai cioè. esistito. Allora, Ok, ti faccio un recap, lo faccio per tutti, che questa è un po' la visione del mondo generale, per i Berber, per tutti. Che ci sia un creatore dell'universo, un demiurgo, più o meno tutti i popoli lo possono accettare, ma è qualcuno che ha creato il mondo in un modo tipo organizzando il caos alla greca, oppure in 7 giorni, in modo teleologico, cioè con uno scopo, eccetera. Ma è un ente talmente tanto superiore che non ha senso né venerarlo, né concettualizzarlo, né niente. Storicamente, invece, ci sono state le divinità che sono figli, in qualche senso, di Sì. questo termine, di questo demiurgo, e che poi hanno creato alcuni aspetti del mondo, slash, si sono messi a difendere alcuni aspetti del mondo. Però hanno drama da divinità classico di Sì. Pantheon di ogni cultura. Ok, non Sì. sono onnipotenti. Non Ok, esiste una divinità onnipotente, cioè anche quello che ci va perfetto. più vicino, quello che voleva essere un dio monoteista, è il dio della Santa Chiesa, che tutta Ok. la sua esistenza era cercare di eliminare tutte le altre religioni, in modo da rimanere solo lui Ok, e di incarnare l'idea dell'onnipotente divinità unica. ok. E ha fallito. No. No. Meno male. Ok, perfetto. Grazie per il chiarimento, scusa Ci per stava, l'off no, è. topic. Sì. Non vi faccio rollare storia perché sono robe veramente che dovreste sapere tutti, quindi è giustissimo che ve le dica. Comunque di base tutti quanti più o meno tranne mi sembra Zanzan, Sta roba che ti ho detto anche Ivan. Zanzan. Ok. Ivan c'ha il layer di non essere into the game degli ultimi 80 anni, abbiamo deciso che siamo tutti atei, però è into the game nel senso che sa che il dio creatore non è una cosa, cioè è un concetto spinoziano, diciamo. Sì. Mentre le divinità sotto sa, può crederci o meno, anzi realisticamente non ci crede perché ha vissuto ad Oclica, sa che avevano tutto il bickering da divinità greche. Ok. La Quindi mia moglie che mi ha sì. istruito, diciamo, nelle sue stronzate, diciamo. Esatto, tua moglie è una di quelle Quindi persone che ci crede. voi accademici Oclica, così, cioè loro sono atei. Ok. Sì, duramente atei. Ok. Ma per il semplice Quindi non motivo era. cioè delle prove della non esistenza di Dio, cioè non abbiamo motivo di credere che esiste, quindi ok, benissimo. Ok, potete continuare. Quindi Kayel ci ha appena detto che è stata influenzata a fare quello che ha fatto da questo Quibble. Lo ha Potrebbe. implicato. Fortemente. Cioè, proprio. E a questo punto Adone si avvicina a Kael e le fa: avevi detto che una volta che avessimo sciolto il contratto avresti potuto aiutarmi con questo, e indica il proprio occhio. Non tanto aiutarti quanto darti delle informazioni in più. Sì, ma sei rimasto sfigurato anche tu, come me. Sfigurare è una cosa che i diavoli fanno a chi non tiene la propria parte del contratto. Onestamente non so cosa puoi aver fatto per meritarti quello. Non ho idea, avevo 4 anni. Devi aver fatto incazzare qualcuno di potente. Che cazzo? Ok. Adone è un attimo sorpreso e dice: tu non hai modo di capire chi, vero? Se ci fossero tracce del sigillo potrei. Il punto è che non vedo niente del genere. Sembra che stia guardando oltre te, capito? Sì, sì. True you. E quindi sì, non credo. Forse con un po' di studio potrei controllare se il tuo sangue è diverso, se hai qualche cicatrice o robe del genere. Nei prossimi giorni, se rimaniamo liberi e vivi. Oltre a questa ciocca e l'occhio, non credo mi sia rimasto niente. Poi vedi che ci pensa un attimo e dice: tranne una cosa, non riesco più a sognare. O meglio, è da molto. Prendo qualcosa che me lo impedisce di fare, perché se sognassi, sognerei incubi. Questo restringe al campo. Sì, ho un paio di idee. Servirebbe fare degli esperimenti. In questo momento vi chiedo di fare tutti un roll di percezione. Di 10 sembra. Sì, di 10 più la vostra perception. Dai, che avete nella scheda. Mi basta sapere il numero più alto che fate sommando perception. Ovviamente non faccio rollare i miei NPC, ma faccio rollare solo voi. Gideon non sa che ho... Sì, credo che 12 non si batta. Laggando in modi... Naya di percezione c'ha 2, credo. Aspetta. Sì, c'hai 2. Zanzan ci avrebbe più 3, ma mi sa che anche Zanzan ha fatto meno di 9. 5 sì, io. Sì, sì, sì, ok. La cosa divertente è che la difficoltà di questo test era 12. Neo. Lucky. Gideon, e solo Gideon, a distanza, riesce a intravedere nell'oscurità una figura. Un uomo vestito elegante che è davanti a una casa. Vedi proprio l'outline della casa e vedi la figura dell'uomo. Capisci che è vestito elegante perché ha un vestito tipo, sai, quelle giacche un po' lunghe, quindi sì, sì. Non sembra visto come uno straccione slash una persona, un contadino, ecco. Cioè da vestiti da uomo dell'alta classe, da l'outline almeno. Ho solo bisogno di un altro secondo. Ok, no, devi dirmi cosa vuoi fare, se vuoi fermare il resto del gruppo. In linea di massima, sì, noi ci stiamo muovendo in direzione di Kael o di Devin? State seguendo Devin e... Ok, allora do una pacca sulla spalla a Ivan e senza dire niente indico nell'oscurità dove c'è il tipo. Suppongo che Kael anche veda che sto indicando qualcuno. Però non dico niente ad alta voce, indico solo perché ho paura che, boh, mi senta, scompaia. Ok, ve ne accorgete tutti tranne Devin, che ha un occhio coperto e con l'altro è concentrato. Quindi se nessuno ferma Devin, lui va avanti. Gli metto una mano sulla spalla a Devin. Che c'è? E indico. Vedi che si toglie la mano dall'occhio, fa tipo... è lui. E non lo vedevi attraverso la sua prospettiva. Vabbè, sto zitto. difficile da fare, non l'avevo mai fatto prima. Allora, vedete appunto l'outline di questa casa, e ora che siete a freddo, uno di voi, non voglio dire che ha un breakdown, ma riconosci quella casa con i licheni sul muro, overgrown, la porta di legno, insomma, Naya ha già visto questa casa, ha già avuto un interessante incontro all'interno di questa casa. Mentre per voi è la prima volta che la vedete, riconoscete che è Aidos, il tizio, ora che siete nel chill riuscite un attimo a fare mente locale. Ed è davanti alla porta e non capite se sta fidgeting con una chiave o con qualcos'altro. Quindi... Ma ci vede? Cioè nel senso... Non sembra avervi notato. Avete avuto culo col roll. Però fate luce. Quindi a sto punto faccio Eridor, spegni la luce. Spengo ovviamente la luce, si no, spegne come le lampadine con il cordino, gli tiri un lobo e i capelli. Ora siete nell'oscurità, cioè lo vedete perché gli occhi si abituano abbastanza in fretta e sapete cosa state guardando, però vedete proprio le outline delle cose. Sussurrando, vi avvicinate immagino, Devin dice: l'artefatto è dentro la casa, credo ci sia un baule o qualcosa del genere, non so cosa sia, comunque un oggetto dentro al quale ha inserito l'artefatto e credo lo stia venendo a recuperare perché prima era fuori. Vuoi che lo blocchi? Decidiamolo insieme. Qual è? Lei dice, ma se Kael ha appena detto che il fatto che noi recidessimo i nostri contratti e venissimo a fare esattamente quello che stiamo facendo non è un caso, cioè questa situazione non è quella che pensavamo che avremmo gestito. Devin ti sta guardando come se tu fossi stupido e ti dice: credo che le mie scelte siano condizionate dagli altri, ma rispetto alla tua opinione. Detto questo, quello ci separa dal metodo per salvare la nostra amica, l'apsus freudiano, e soprattutto dalla verità. Se lo toccassimo adesso, quante possibilità abbiamo di farlo svenire? Io posso aumentare la gravità così chi lo placca a più umf. Naya si gira di nuovo verso Devin e dice: hai detto che lo stai fissando da giorni. Cos'è che fa? Aspetta qualcuno o sta soltanto a fare la guardia? In genere recupera l'artefatto, si reca in centrale, credo lo carichi, non ne sono sicuro, e poi lo porta nell'ultimo piano della cattedrale, dove fa qualcosa con la principessa e poi lo rilascia qua. Domanda stupida. Adone dice: in più di 3 ore fa tutta sta roba, vero? Sì. Non abbiamo il tempo di aspettarlo. No, cioè seguirlo non sarebbe ideale. E poi questo è l'unico momento in cui è separato dall'artefatto, quindi... Allora è meglio metterlo fuori gioco adesso. Se volete, siete voi quelli che picchiano, non io. Gli altri. Io guardo gli altri. Quindi posso andare? Vai, Can I? Va! Allora... Lo facciamo, quindi... Lo facciamo, è già partito. Sta già correndo. Solo una domanda out of character, perché sono io Rox confusa, abbiate pietà, sono stanca. Noi stavamo andando in una determinata direzione prima di vedere il maggiordomo, giusto? Sì. Che è la direzione che Devin andando. Stava vedendo con il suo occhio. Sì. Ma non stava funzionando, cioè Lui ha un, diciamo, ha mappato la strada che ha fatto il tizio. Ok. Okay. Quindi c'ha un'idea di dove andare. Con, chiudendo l'occhio, ha rivisto man mano i passi che faceva il tizio. Ok, quindi davanti a noi adesso abbiamo una casa, mentre il maggiordomo è davanti a un'altra casa. Davanti alla stessa casa. Ah, è la stessa casa. Sì, sì, okay. Sì, sì. Okay. C'è un'altra villetta poco lontana, però sì, cioè il maggiordomo è davanti a una casa e la casa che tu hai visto è quella stessa casa, identica. Ho bisogno di sapere cosa fate nel dettaglio, cioè se Devin fa la gravità e Zanzan se cerca di arrivargli sneaky o se cerca di corrergli in faccia. Esatto, cosa stai facendo? Perché se sei sneaky non faccio la gravità. No, no, e Zanzan punta tutto il suo elemento sul peso. Ok, sta correndo come un elefante. No, no, no, no, sta correndo come un elefante. Io cane. Ok. Io sta bruciando tutte le tappe possibili. Allora, ovviamente Zanzan è già andato, non è che possiamo sì, fermarlo. Quello che fa Gideon è che quando sta per arrivare Zanzan caccia la gravità aumentata dove c'è il tizio. Ok, mi guardo rapidamente le stats della spell e te lo faccio. Raggio S, raggio 4 metri. E faccio un altro cerchio di raggio 4 metri. Ops. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, questo dovrebbe essere un cerchio di raggio 4 metri. Cambio colore, lo metto giallo. Perché giallo dà gravità. Qui o più in su? O di lato, dimmi te come. Un po' più in su, magari centrarlo addosso a lui. Così Zanzan non ci deve correre dentro troppo. Ok. Allora, Zanzan, quello che stai cercando di fare, se ho capito bene, è di placcarlo. Sì. Bene. È letteralmente il football con... Mi rolli 2 di 10. 2 di 10. Posso castare help per aiutare tutti quanti in questa sì. situazione veramente particolare in cui, Dio porco, ci siamo cacciati così. Hai un 8 perché teniamo il più alto. Sto segnando tutte le robe perché mi serve sapere tutto quello che succede. Dimmi se vuoi anche i bonus. Sì, tra un secondo ti dico tutto. Devo segnare a... Dov'è? Gideon che ha speso 2 e quindi va a 12. Poi ho help di Naya. Help. A tutti quanti. Che dice puoi lanciare questa magia entro un bersaglio. Sì, sì, lo fai su un bersaglio entro 8. L'unico che sta facendo un test è Zanzan, quindi gli aggiungi 4 al test. Ricordiamoci 4, ti segno il costo di help che è 1 e ti segno l'esperienza che è 1. Aspetta che vado a segnarti. Se qualcuno fa, cioè nel senso posso usarlo in questo giro di azioni che stiamo svolgendo tutto, se qualcuno contemporaneamente fa qualcos'altro. In teoria è una reazione, quindi lo puoi fare una volta per giro. Okay. In pratica, se fate dei test fuori dal combattimento, ve lo faccio fare. Okay. Cioè, in combattimento, che ce n'hai una alla volta. Io direi che questo è un test di... sollevare, cioè alla fine placcare è più sollevare. Quindi hai più 5... Yes. Hai più 9 totale. Yes. Quindi hai fatto 17. Yes. Dammi un secondo. Non basta. Ce la fai. Male, un hidden system. Allora, sei a un millimetro, cioè l'hai afferrato. E non so se vi ricordate che Eidos c'ha una voce nasale, eccetera, eccetera. Un po' non nasale, scusate. Ed è tipo porca scata, cosa cazzo stai facendo? Dobbiamo prendere delle roba adesso e tu mi sei fermo e tipo sto mezzo stritolando. Ok. E lui scompare, quindi tu fai questa cosa qua. Oh. E voi vedete le barre sopra Eidos? Surprise? No. Sotto Aidos neanche... sì, però. Sotto? No, non vedo niente. No, cazzo è Aidos? Allora, c'ha la vita Aidos. Adesso sì, adesso sì. Bene, è importante che voi vediate le barre. Scompare, ricompare e tira un pugno a Zan Zan. Vuoi che ti segno quanto c'ha di bonus o evito? Fai quello che devi fare. Ti dico solo se entra o no, se vuoi. Sì, sì, sì, sì, sì. C'è un porco, ragazzi. Uno sul dado. Bello. Scompare, ricompare, cerca di tirarti un pugno e la gravità gli impedisce di connettere. È tipo... Esatto. Bella. Io ero più veloce di così, effettivamente. E... Ora tocca a tutti gli altri. Zan Zan e Coso hanno agito. Gli altri possono agire. Se volete, vi fate due movimenti in un turno. Rispetto alla posizione in cui siete. Cioè, vi concedo di fare due movimenti. Potete dirmi l'ordine con cui volete partire, altrimenti scelgo io. Scegli tu. Benissimo. Andiamo nell'ordine della mappa. Al limite, al prossimo giro, scegliamo un ordine alternativo. Il primo è Erindor. Ok, cerco di avvicinarmi, faccio un'azione di movimento, quella massima, immagino, può fare. Ok, di 4 credo sia il movimento, aspetta che vado a controllare per sicurezza, sì, 4. Cioè, un'azione di movimento ve l'ha buono, la potete fare e basta. Sì, perché sennò passiamo il turno. Sì, esatto. E ti puoi muovere? Cioè, ce l'hai i powers, no? Ce l'hai i powers per muoverti? Perché i powers per muoverti? Ah, in che senso? Sì, okay. Sì, sì, ok, ok. Okay. Devo a livello di... Spendo per primo mi esce un po' difficile fare cose. Puoi ritardare il turno se vuoi, eh. Sì, grazie per ritardare il turno. Adesso. E... Ok, allora il prossimo è Devin. Devin si posiziona qua e termina il turno in mancanza di altre azioni. Prossimo che ho sulla lista è Adone. Di quant'è che mi posso muovere? Scusi. Credo 4 anche tu. Double okay. Check, ma credo sia 4. Sì, è 4. Ma allora facciamo che Adone si sposta lì. Ok, fai pure. C'hai due azioni di movimento, quindi. Ah, ne ho due? Sì, sì, sì. La prima è gratuita. Ok, perfetto. Allora. Non so che cazzo fare, che situazione di merda. Vuoi saltare anche tu il turno? Sì, infatti. No, prima tu. Raga, tanto dobbiamo tutti arrivare almeno vagamente vicino alla zona del combattimento, vaga? Quindi. Allora, io mi avvicino lì e sai cosa? Che palle. Distanza 10. Cosa? A distanza 10. Provo. Ho un'azione base, vero? Sì. Hai un'azione base e un'azione extra ancora, sì. Bianchi, c'è una richiesta del cazzo. Puoi togliere l'effetto nebbia su Roll20 perché mi sta laggando un botto? Mi dispiace, raga. Stai rovinando l'estetica. Puoi toglierlo solamente tu nelle... Posso, sto cercando sì, sì, roba sì. Ma non in mi alto si carica destra, perché... sotto graphics. Riding. E c'è la spunta Enable Animated Fog, puoi togliere. Grazie, King. Ok, a questo punto io mi casto Overpower, che è un'azione extra. Sì. E dopodiché faccio Passione Tormentata su Eidos. Ho bisogno di un secondo perché Overpower ho bisogno di sapere quanto... 4 di 4 rolla. Sì. Ale, 11. Hai 11 turni di overpower. purtroppo il segnalino mi arriva massimo a 9. Quindi hai 11 turni. Ok. Posso segnartelo così, se no. Ci sto. E l'altra cosa che fai è consumare un mana penny per usare passione tormentata. Ci arrivo. Sì, 14 celle, quindi ci arrivi. Devo resistere con difficoltà 12. Io a resistere ho un bonus. Questo è poco ma sicuro. Immaginavo. Già, te lo rollo. Resiste. Vabbè. Resiste, cosa vuol dire? In nuovo con passione tormentata che... Ah, recuperi uno fatica. Ah, avevo fatica? No. No, recuperi uno di mana. Ah, yippee! È che ho invertito un mana penny in mana, quindi in effetti potevi fare la cosa che ha detto Ivan, solo se il tizio evita. E fine Vabbè. Del turno di Adone. Sì. Oh, Ivan. Corro. Allora, corre. Hai 5 di movimento gratuiti, e quindi fin qua ci arrivi. E poi è il tuo turno. Correndo effettivamente durante il tuo turno puoi muoverti del doppio della velocità di movimento, che è 10. Allora raccolgo un sassolino da una delle un sasso da una delle dei muretti. No, un mattone no, un mattone è eccessivo, ma tipo a pebble. Ok. Corro fino a vediamo se la faccio prendere. Dio, perché sono impedito? Allora fino a qua. Ok. E poi gli lancio un sasso, tipo un sassolino per farlo. Guarda, va tutto bene, ma devi arrivare fin qua perché queste sono due azioni. È ok. L'unica cosa. Ma io ho 5 sì, di. Sì. Ah, ok, era già 5, mi sembrava fosse 6 fin lì. No, non lo so, non ho contato. Boh. Vabbè. Okay, sono 6, sì. E rolla un di 10. 8, aspetta che vado a controllare come funziona l'alta gravità, cioè se ho dei... Ah no, aumenta i danni e riduce la velocità di movimento. Quanto hai di bonus? Aspetta che lo guardo. Di precisione hai più 1, quindi più 2. 10, il sassolino non lo prende. Ok. Sì, gli devo dare 3 barre. Ups. Sbagliato. Non lo prende, però tipo il mio obiettivo era più che altro farlo guardare verso di me, tipo. Sì, fa tipo. What? E tocca a Gideon. Allora. Oddio, in realtà hai fatto la roba dell'area. Io ti quindi... farei come a Zanzan, cioè che ti sei mosso fin qua e hai finito il turno, perché l'area... Ok, fin dove? Mettimi tu, se mai. Sì, sì, sì. Perfetto. Se sì, muovi sì, allora in linea retta. Ok. E andiamo a Naya. Mi si sta aprendo col 20. E io ho usato prima help, non so se conta. Sì, però è un'azione extra. Cioè, una reazione, quindi in realtà è ancora tutto il turno. Erindor, okay. Vuoi fare tu il turno intanto che aspettiamo Rox? Vorrei usare... Se no vado a memoria perché mi ricordo, cioè volevo correre e usare Invoke Fate. E va bene. Se riesco ad arrivare sì, sì, fino sì, a... Sì. Arrivi fino a dietro Erindor e sei a 13 celle di distanza. Ok, Invoke Fate non ha esattamente un'area di... No, perché devi rollare e vedere cosa succede. Ok. Devi rollare un di 6. Posso... No, prima devi rollare un di 6. Ah, ok. Ok. Scusatemi, ho tutto quanto che sta laggando. È proprio esplosa? No, no, ci sono. Sto facendo una cosa intelligente. Se solo tu avessi un computer appena messo. È più connection. Ma è la connessione qua, mi sa, Poderoso 5. Ok, mi fido. Il 5 con i no, cioè, è lì. È solo il 20. È arrivato. Arriverà. Il 5 ti dà un'azione base e un'azione extra aggiuntive per questo turno. Quindi puoi fare un'altra azione base e un'altra azione extra. Puoi ripetere le azioni che vuoi. Quindi puoi muoverti, puoi... E... Cioè, avresti due azioni base e un'azione extra ancora da spendere per come funziona sta cosa qua. Posso ricastare Invoke Fate? Sì. Tira un altro di 6. Dio cane. Vi è arrivato almeno il 5 di no. prima? Dio cane. È lì, arriverà. Se vuoi rollo io il di 6, Irl. No. Dai, Naya! Dio porco! 3. Con 3 abbiamo... Recuperi 2 fatica, 2 PV e 2 mana. Mana non ne hai, quindi recuperi... fatica. Ah no, scusa, non hai il mana, quindi recuperi uno di fatica aggiuntivo. Boh. Okay. Questa era la tua azione extra, hai un'altra azione base, puoi muoverti per esempio. Dove cazzo sono? Sono ancora a fanculo, sì, vero? Ti muovi di 4, e puoi andare dietro Gideon se vuoi. Vado? Sì. Ok. E... direi che hai finito, giusto? Mm-hmm, sì. Ok. Tocca a Kayel. Che si muove qua Kayel e termina il turno. Ah no. E ora ce l'ho io. Sì, sì, sì, tocca a te. T'ho messo per ultimo. Ah, vabbè. Volevo mettermi tipo qua in posizione di tira perché la prima azione di movimento era extra, giusto? Sì, sì, sì. Qua, fino a qua posso? E... perché voglio provare a sparare e essere in range, vedere, averlo sotto tiro. Allora, qua sono 7 di movimento, quindi no. Dimmi fin dove. E massimo qua o qua. Perché te l'avevo già fatta la mozione di movimento. Cioè, ok, proviamo da qua e vediamo. Qua è raggio fattibile. 12. Aspetta. Pistolking. Allora... raggio 3, ah no. No, no, no, prendi più uno, cioè, prendi uno raggio aggiuntivo prendendo meno 1 precisione, quindi hai meno 8 a colpire. Dai, vai, vai, così mi sento... Se vuoi. Zanzan è abituato a prendersi i colpi. Un di 10. Chi è vivo? Un di 10... meno 8. Meno 6, perché hai più 2. Ok. Zero. Mi esplode in basso la mano. No, no, no. Lo hai missato. Giuro su Dio che questa era una mossa sensata. Capirai perché. E... la pistola alchemica consuma proiettili. Sì. Credo. Ok, quindi vai a 54. Ce n'avevi 5 così tanti? Non ne ho mai usato. Praticamente. L'ho usata la pro all'inizio. Sì, poi... sì. Fine del tuo turno. Tocca ad Eidos. Sara. Arrivo, eccomi 5 qua. 5 secondi, sì, sì, sì, vuoi sì. giocare tu? No, no, no, no. Non vuoi controllare Eidos? Ma taci, ma pensavo mi stessi prendendo per il culo quando me l'hai proposto. Allora niente, farò io. No, lascia sta. Eidos, che è a tu per tu con Zanzan, fa un frasone del cazzo, da cattivo, dei cartoni animati, eccetera, prima di fare le sue robe, che dice... Non avete capito niente, ma... se questo è quello che volete fare, non mi tirerò indietro. Compare una creatura al lato di Zanzan. Sono così gentile che vi rollo la vita in pubblico. Un neonato. A creatura. A creature. Ok. Posso dire Naya roll, godo. Is it? Cioè, abbastanza average. E questa creatura... sembra uscito da un libro di favole, è un imp, ha tutti i tratti fisici molto appuntiti, a parte le orecchie che sono flosce e sembrano delle ali, è rosso, tranne alcune parti che sono di colore bronzeo, e ha degli artigli, e credo che questa sia la descrizione di questa creatura. E questa era la mia azione base. Questa era la mia azione base. Grazie Sara per i consigli che mi dai sempre. E no, io me la voglio giocare tranquilla invece. E il nostro amico tira un pugno a Zanzan. 25. Colpisce Zanzan. Vabbè, più dei 20. Porca troia. Ti infligge 5 danni da impatto. Hai resistenza ai danni da impatto? No, mi pare di no. Ci l'ho solamente se... Sei warrior all'1? Sì, se usi guard al turno prima. Sì. No, ma comunque anche... No, non c'ho. Ok. Ne. Ti tira un pugno e ti fa male. Più di quanto un pugno di un essere umano ti abbia mai fatto. En passant, ha delle braccia molto muscolose, evidentemente. Azione base, ho ancora un'azione extra, e quindi facciamo quello che dice il demone sulla mia cazzo di spalla. Intorno al nostro amico Eidos viene creata un'area, fammi vedere quanto cazzo è grande. Raggio, wow. Voi lo vedete? No. Non ancora. Ora? No. È cambiata la tonalità. Sì, sì. Ah, oddio! Okay. Sì, what the fuck, quanto è grande! Ok, facciamolo così, che si vede meglio. Crea un'area oscura. Quest'area è buia. Ok. Fine della descrizione dell'area. Erindor, accenditi. Costa un'azione, costa mana. Ivan che lo scuote fa: accenditi. E tocca lo Zan... cracco tipo gli sticks. Tocca Zanzan. Sei al buio. Non lo vedo, quindi. No, lo vedi, ma è buio. Ah, è che cazzo. Colpire avverso. Ah, ok, in quel senso, ok. Sì. E vabbè, overpower, quindi ti tiro la durata 1d4 solo, ci sta, e fosse 1. Ah, madonna, proprio. No, 2d4. Okay. 2d4, ne rollo un altro. Oddio, cos'era questa? Era di che boss di Bloodborne? Sai che non mi ricordo. Oh, Zanzan ha ricevuto un pugno e gli restituisce un pugno, I guess. Ah, proprio a mani nude? Sì. Rolla un d10 per colpire. Raga, non ci credo che Zanzan morirà prima di Ren. 8 più... Wow, Rox, just fucking wow. 8 più 2 è 10. In mente sarebbe 3. Perché sarebbe 4, perché hai più 2 da 4. Sta cagata qua. Quindi hai fatto 12, quindi lo colpisci, mi tiri i danni di un pugno che, visto che tu sei una persona, sono un D2, credo. Un D2. Dal manuale credo un D2. Metà del mio rosso, che al momento è 6, quindi gli faccio 5 danni. Bellino. E questi sono 5 danni che si prende in bocca. Cioè proprio gli tiri un pugno in faccia stavolta, per bene. E lo vedi che... Gli inizia a sanguinare il labbro. Sospira. Hai usato un'azione e un'azione extra per overpower. E ho usato un'azione e un'azione Sei extra. Nella gravità aumentata. Sì. I danni quindi sono raddoppiati. Com'è che funziona? Sì, i danni blunt dovrebbero essere raddoppiati. Ah, sì, quindi anche quelli che ha preso Zanzan prima. Sì. Meno 10, meno 10. Bello. Sì. Beh, dai, la barra della vita sta scendendo, è innegabile questo fatto. Tempo di tirare fuori le big guns. Poi se no, ci muore Zanzan è un problema. Posso, non posso attaccarlo di nuovo, no? No, finita. Deve essere una spell. Puoi usare guard. Posso usare guard, ma se poi con uno di fatica per power posso riattaccare lui o è un altro bersaglio? No, no, no. È un bersaglio adiacente, immagino che non sia il solito. Ma che stai leggendo questa cosa qua? È la descrizione di power. Ah no, intende dire che la... cioè non spendi un'azione base per fare l'attacco, credo. Quando puoi spendere una reazione per prendere una fatica, no, ok, mi servirebbe una reazione comunque. Ah no, la reazione è durante il turno di qualcun altro, allora. Scusa. Quando lo fai puoi effettuare immediatamente un attacco senza armi su un bersaglio adiacente. Sì, sì, sì, sì, intende dire che passi e lo fai. Sì, e allora prendo guard, sì. Ok, ti segno guard, hai più uno evasione e resistenza. Questo sarà utile a un certo punto, ne sono certo. Fine del tuo turno. Da qui in poi, qualunque momento, puoi usare la tua roba. Yes. E Devin, delay al turno, come ha fatto Erendor prima. E quindi tocca a Done. Però l'unico ad avergli fatto danno a sì. quel tipo per adesso. Cioè, sai parte... come sei partito in quarta, dovevamo un po' raggiungere. Sì, sì, no, domanda, no. Io vedo davanti a me, cioè riesco a vedere. È buio, però sì, è sì. È solo buio, ok. Allora, direi che mi sposto in avanti. Metto di fianco a Ivan. E... Tiriamo per mano. What if we hold hands at the Eidos punching? Cioè, veramente. Howard. A questo punto provo a castare passione tormentata ma su Limp. Spendi una moneta provando a fargli danno freddo questa volta. Te dici, le proviamo tutte le resistenze, prima o poi la prendo, eh. No, è che dico, sembra fatto di fuoco, gli farà qualcosa. Sarà debole al ghiaccio. Pokémon mi ha insegnato un cazzo a me. No, scusami, scusami. Non ho mai giocato a Pokémon, non ho mai infatti, imparato. E ti segno, ti tolgo una moneta. In realtà tu hai preso due esperienze a stregoneria. Check. Perché ogni volta che fai passione tormentata è una stregoneria. Questa cosa è così sbagliata da così tanti punti di vista, Vianic. Quanto stai pensando alla roba che hai scritto oggi? Soprattutto il nome della spell. È proprio quello che stai pensando tu. Poi dopo vi raccontiamo. E... dopo vi raccontiamo. Please don't. Devo rollare io per resistere. Sì. E il Limp c'ha più uno. Sì. Ma ha fatto uno sul dado. Prende 4 danni. S danni. E hai 4 di S. Perché non scala con mente. No. Ah sì, cazzo, è vero. Prende 3 danni. E i 3 danni glieli fai, li subisce, lo senti che l'hai danneggiato, non in modo diverso da come ti aspetteresti che reagisca una persona che hai congelato. Ti piace questo modo per dire, non è debole a ghiaccio? Hai visto quante parole per dire? Sì, veramente. Hai un'azione extra. Sì, però come... cioè mi... c'hai un cazzo da fare, te. Infatti. Sì, perché non posso usare la mia bacchetta. E... no, perché azione extra. Cioè, tu c'hai... quella è un'azione base. Infatti. Sì, sì, sì. E niente, basta, ci ho provato, ragazzi. That's it. That's all, folks. Mi segni che ho 9, no, ho 10. 10, ho 10 9. Ancora. 10, 10. Te l'ho segnato. Ma gli XP senza armi me li hai segnati tu già? Te li ho segnati io. A posto. Sì, sì, sì, sì. Li sto provando a segnare man mano. Sto diventando scemo a cambiare da una scheda all'altra, come forse il più astuto di voi. Sì, sì, sì, sì, no, no, ho notato, infatti. E poi ho Ivan. Quanto cazzo è bella sta canzone, ragazzi. Ciao, allora, ci sono altre vie di entrata a quella casa? Ci sono delle finestre, ma sono molto piccole. Rox, ti ricordi la descrizione delle finestre? Sono molto piccole. Sono tipo, hai presente le finestre in alto dei piani interrati? Ok, neanche sul tetto c'è qualcosa? No, ma nel senso, dalla finestra ci puoi passare solo un po' stretto. Cioè, devi spaccare il vetro e infilarti. I try. Ok, allora I do that. Rollami un D10. Boh, un test di sollevare anche questo. Arrampicare, cioè arrampicare, facciamo arrampicare. Un di 10 più 5, che è anche la tua main skill. Esatto, per quello. 12. Dammi un attimo che devo rivelare. Vabbè, non c'è un cazzo nella casa perché non l'ho disegnata. I'm made for this. Sì. Sei all'interno della casa. Ok? Hai spaccato la finestra e sei entrato. Mi rolli un di 10 per nascondersi, per vedere se se ne accorge Eidos che hai fatto sta cosa. Ma io sono nel buio. Sì. Però lui è... Hai fatto 10, lui percepisce sotto a 12. Quindi ti ha notato che sei entrato in casa. Sì, ok. Non finisce il tuo turno, cioè c'hai un'azione ma non puoi muoverti. Ti descrivo brevemente l'interno della casa. Spoglia. Ok, una casa veramente spoglia. Ci sono alcune sedie sparse. 4 sedie, 3-4 sedie. Proprio abbandonate in punti a casa a caso della casa. Overgrown anche all'interno, tutto mezzo diroccato, tutto rovinato. In fondo, nell'oscurità completa, riesce a intravedere una sagoma di un oggetto che da questa distanza non riesce a capire se sia una tanica, una botte, un baule storto, non capisci cosa sia. E finisce qua il tuo turno, Jin, a meno che tu non voglia fare qualcosa di strano, cioè dimmi te. Non penso che possa far nulla. Oddio, aspetta un attimo, tre secondi proprio. Posso anche farti fare il turno tra un attimo, se vuoi pensarci. Cioè, ok, comunque test di agilità fisico, bla bla bla, prowess. Ricordiamocelo. Ma l'hai passati, quindi... Ah, no, no, è vero, hai fallito quello di nascondersi. Puoi farlo, se vuoi. No, nel senso... Ah, prendi l'esperienza, scusa, forse... E prendo l'esperienza, tipo, sì, scusami, sì, c'è sì. Due spell che c'hanno due nomi. C'ho una roba di mia, che prendo l'esperienza per queste cose. Sì, c'hai la cosa che due volte per incontro puoi ritirare un test fallito di agilità, quindi se vuoi puoi ritirarlo, ma hai fallito con 8. Quindi realisticamente dovresti fare 10 per... No, va benissimo. Noto se dentro c'è tipo qualcosa che posso usare come luce, no, vero? Non c'è assolutamente niente che sembri... poter fare luce. Non ci sono né torce, okay. né lampade, né niente. Bene, metto i guantoni e i bronze gloves e finisco il mio turno. Benissimo. Gideon. Allora, io vado in avanti di quanto mi serve per tirare destroy. Ah, no, aspetta, cioè di quanto vuoi. Destroy, qua mi segna... MCL. E c'hai 2 di M. Ok. No, ma davvero M? Oh, minchia. Sì, è proprio, devi essere melee. Ad M. Vabbè, vado avanti di 4. No, non arrivo a niente, vero? No. Cioè, Destroy non ci arriva perché è fuori per 2. Non so cos'altro vuoi fare. Neanche a Limp. Niente, mi sposto lì a sto punto. Ok. Prossimo turno. Sì. Ok. Naya. Allora, mi sposto di 4 celle, solo dietro a Gideon. Porco Dio, sto spostando la mappa, scusatemi. T'ho spostato io. Ce la faccio? Grazie. Volevo capire se... La nube, l'illusione che ha castato è una maledizione e se posso toglierla con Expel Evil. Mi dai cioè, due se secondi. Rientra nelle cose. Certo, anche qua. It fucking counts. Oh my god. Vuoi farlo? Smart. E allora, Expel Evil è un'azione extra, costo 1, quindi vai a 12. Non ti faccio rollare né niente, semplicemente succede. Vedete che... Okay. Vuoi descriverlo tu o lo descrivo io? Ah, descrivi pure tu. Mentre Naya lo fa, risponde alla frase che ha detto prima Eidos. Prima aveva detto non avete capito nulla, giusto? Sì. E Naya gli chiede cos'è che non avremmo capito, spiegacelo. Mentre prende pugni, figa, sì. Naya semplicemente non sta prendendo pugni. Naya casta Expel Evil, quindi dice una, prima di dire sta frase, una coppia di parole in latino, e vedete che la nube viene attraversata da fulmini e esplode. Però è tutta una roba di fumo, quindi semplicemente è più fuochi d'artificio che non roba vera. E hai ancora un'azione base, perché questa era un'azione extra e un'azione base per muoverti, quindi puoi fare ancora una cosa se vuoi. Se vuoi. E no. Il fargli quella domanda conta come no, azione base o... L'hai fatta. Ok. Grazie. che cazzo altro posso fare? Per me anche niente, cioè ti dico solamente una che... domanda. Help lo devo usare durante il mio turno, posso usarlo anche durante il turno degli altri? È una reazione, devi usarlo durante il turno degli altri. Quando fanno un test, cioè quando falliscono un test. Tipo, prima potevi usarlo su Ivan per fargli superare il test. Ok. Sono stupida, scusatemi. Casto di nuovo Invoke Fate, vaffanculo. Non puoi castare due spell per turno. Ah, è vero, ok. Sì. Help ignora questo limite perché è una reazione. Ok. Posso fare un check su Eidos se capto qualcosa di strano dai suoi occhi o comunque... Certo, roll on di 10. No. Anzi, vogliamo farlo tutti? Ma sì. Allora, mi serve che... Tu, Naya, mi rolla la religione. Hai fatto uno, non hai la più pallida idea di cosa stia succedendo qua. A meno che tu non abbia un modo per rollare. Ho fatto 7 tecnicamente. No, non basta. Se Naya rolla la religione, ho fatto 7. Sì, sì, non basta. E a meno che tu non abbia un modo per rollare, questo è un fallimento. Memoria. Minchia, vuoi farlo? Non posso usare su me stesso. Erindor deve fare un test di arcano. Se vuole. Che ho più. So, mi sono tantissimo. Dai, invece 4. Figa. Vai, rolla. Riesci a capire un cazzo di niente. Vai. E ho Gideon che mi rolla anche lui arcano. Ok. Ho sbagliato. Nope. 0. Ho Adone e Zanzan che mi rollano arcano. Immagino di doverlo rollare di nuovo. Immagino che devi rollare di nuovo. Io immagino di dover rollare di nuovo. Anche Eddie. Anche Ick. Anche... Sì, rollate ancora. Okay. State sprecando i roll alti. Ma che 21 più mente, che hai il bonus attualmente con Ika, con Zanzan. Io c'ho overpower, tra l'altro. Sì, c'avete entrambi il più 2. Quindi Zanzan ha fatto un 26. E Adone ha fatto un ridicolo 16 più 7, 23 più 4... No, scusa, più 5... Sì, 26 e 27 mi avete fatto. Ho pai del cane io e questo... No, scusa, Eddie ha fatto 17. No, 20... Beh, ok, ce l'avevi già segnato il bonus, ho contato due volte. 23 e 26. Sono entrambi successi. Questa frase è per... Non mi aspettavo che Zanzan la superasse. Diciamola com'è. Nei tuoi lunghi studi ricordi di aver letto di persone che anticamente utilizzavano magie di questo genere, ma da un secolo non se ne sente più parlare. Quello che in tanti avevano bollato come una favoletta è ora davanti a te. La magia demoniaca, questo è per Adone chiaramente, Demon Magic. Zanzan gli rivela una cosa che c'entra relativamente ed è... Tu riesci a percepire col sesto senso una traccia nelle magie. La traccia che rilascia la magia di Eidos è l'odio viscerale. È qualcosa che in un certo modo riesci pure a condividere. L'odio che si prova per una categoria che si vuole eliminare completamente. E... Questo è quello che riesci a percepire dal suo tipo di magia. Non hai altre informazioni, non avete mai visto... Sì, esatto. Non avete mai visto magie di questo genere. Cioè, è proprio come... Non lo so, se uno stesse programmando in cow. Piace come metafora. Esatto, sono contento di averla fatta. E andiamo a Kiel. Ah, posso usare una mia reazione per tirargli un pugno? Puoi fare una tua reazione per tirargli un pugno, certo. Al tizio o all'imp? Al tizio. Rolla. Non lo prendo. Nessuno ha visto niente, bene. Yanis, scusami, la magia demoniaca è il fatto che abbia evocato un imp, il fatto che abbia fatto l'oscurità, cioè tutto quello che sì, sta facendo. L'imp principalmente, però anche la cazzo di oscurità era una variante di una spell che conosci. Lo missi. Sì, non mi sono visto. Penso. Cioè, quanto hai di totale? Cosa sarebbe fisico? No, è precisione. Precisione, no. Precisione hai più 2 da overpower, sono 4, e quindi è un 7. Lo missi, ma guadagni un punto esperienza senza arma. Sì, con 7 lo missa. Thanks for asking. No. Questo ti consuma uno di fatica, vero? Sì. Questa è uno di fatica questo. Sì. E tocca a Kiel che si avvicina fin qua e visto che la linea di tiro è decisamente troppo crowded, spara all'imp. Lo missa in una maniera veramente imbarazzante. Kiel non credo sarà utile in questo fight. Tocca a Derindor. Allora, io ti devo spiegare un attimo cosa mi intendi di fare, poi mi dici se è fattibile. Certo. Posso castare Seeking Light sulle monete che ho usato, in modo focussando Eidos, sì, in modo che vadano? Ok, però immagino che sia una per volta per azione, giusto? Sì, esatto, bravissimo. Ok, perfetto. Allora inizio a mandare la mia prima monetina verso di lui. Ti costa 1 di mana questa cosa qua. Sì, lo so. Quindi vai a 8 e ogni cast ti dà esperienza. Dove cazzo sei? Rick Opium Alchimia, vai a 2. Ok, la monetina si muove di 4 celle ogni turno. La muovo subito. Okay. Si muove, cioè non scelgo io, nel senso che è la strada più veloce tra te e lui. Quindi va qua. La monetina si muove volando, quindi ignora i muretti, ignora tutte le cose. Perfetto. Voi vedete una monetina che fa luce e si sta avvicinando. La monetina fa luce comunque in questo effetto, quindi vedete proprio una bella area luminosa. Questa è un'azione base. Hai un'altra azione base e un'azione extra. Un'altra azione base? Sì, ne hai 2 per turno. Non ti sei mosso, no? Ah no, è vero, è vero. Ok. Vabbè, un'altra monetina in arrivo. Non puoi ripetere la stessa azione nello stesso turno. Se la lascai. Sì. Allora provo a risparargli. Di 10? Hai sempre meno 6. Sì. Se miri a lui hai sempre meno 6. All'imp invece? Meno... All'imp hai meno 4. Vabbè, così vedo. Dammi un attimo che non so la scheda dell'imp aperta. Lo evita. Yeah. Anche perché era un cazzo di numero basso. Sì, assolutamente. Ok. Hai finito il turno, ti tolgo anche il proiettile e andiamo a Devin. Possiamo chiedere 2 minuti di pausa bagno? Vai, sì. Devo pisciare anch'io, grande G. Vai. Yeah! Arrivo subito. Anch'io vado. Sì. Se la stanno cavando bene, no? Non è ancora morto nessuno dopo 2 giri. Infatti, tanta roba. Fallo incazzare. Ora lo faccio. Inizio a castare. Più che altro qualcuno è entrato dentro l'edificio. Non bisogna entrare dentro l'edificio. Esatto. Che grande errore. I really need to get into the building. Dimmi. È un'azione e 2 movimenti, Hai 2 azioni e un movimento. 2 azioni base e un'azione extra per turno. Sinextra può essere un movimento? No, l'azione base può essere movimento, attacco e spell in generale. Ok. Azione extra sono tutti gli effetti strani. C'è altri tipi di spell, guard. Qui c'è scritto, sì. Sì. Vieni, da 1 a 10, quanto è categorizzabile come essere vivente il limp? 6. Ma avevi detto 5. Forse 5. Come quindi mai? È una cosa che Naya non vorrebbe uccidere, vero? Dimmelo tu. E non riesco a capire, cioè non ce l'ho davanti, non so com'è. Allora, è più vivente del coniglio che evoca Adone? Meno di un cristiano. Scelta di parole qui... casuale. Dio porco. Ah, che vuota. Il limp finora che cazzo ha fatto? Niente. No, è dopo quello di Devin. Sì. Ok. Tra l'altro fammi leggere cosa fa Devin. Rieccomi. Stai cambiando qualcosa su World 20, Bianic? Vediamo una mappa che... Esatto. Ho dimenticato l'acqua, cazzo. Ok, ci sono. E... appena arriva... E Bianic, con Bright Hands recupero... PV o fatica soltanto quando ricevo XP, tipo da abbiamo ucciso un nemico e quindi riceviamo sì. XP. Quindi ammazzando okay. Limp lo procchi. Grazie per averlo chiesto. Non è quello che chiedevo. Sì, mi spiace. Ah, la Bloodstar Red Beast, molto bene. E questa sì, è tanta robina. Rick, me lo immagino con il vinello sulla poltroncina davanti al camino. La Blood Red Beast. Ah, gourmet. Siamo tornati tutti? Sì. E... Eidos ha qualcosa in mano, non sto capendo se ha... Cioè... No, a mani nude ha i guanti. È visto elegante, ha i guanti e ha questa simpatica aura intorno agli occhi. Anzi, appena ci siete tutti vi svelo un segreto. Ma non serve, guarda, va bene così. No, no, vi svelo un segreto e come, porco di... Però bisogna che tutti inquadriate Eidos su Roll20 affinché funzioni questa cosa. Vabbè. Eidos è stato infodeato al 230%. Bravo, bravo. Se mai dopo vi mando pure... Ma... Dimmi. Sbaglio o mi ricorda qualcuno, Eidos? Chi? Un figlio di Troia. A me sembra un modello del Joker, però fatto di merda, non so. Wow, thanks, Rick. No, questo... Rick! It's very hurtful. Aia, Rick, oggi sei proprio... Oggi... Sei proprio cambiato da quando sei tornato dalle vacanze. L'avevo disegnato io, ebbene sì. In pixel art, ebbene sì. Rick, adesso come facciamo? Mi spiace. Addio Arindor. Addio Arindor. È stato bello averti in campagna. Eddie, sei andato via ora che ci sono tutti? No, ci sono. Ah, okay, okay. Se carica il cellulare. Le ok, se inquadrate tutti Eidos e faccio così, dovreste vedere l'animazione. Non si vede, vero? No. Forse l'avete disattivata. Comunque, ve la mando sul cazzo di Telegram. No, quando lo hittate fa sta cosa qui. Me l'ho mandata su Telegram. No! Madonna! Ho fatto la roba strana, esatto. Ogni volta okay. Che lo hittate, quindi è molto fastidioso. Pensi. E... tocca a Limp, che attacca Zanzan un certo numero di volte. Vuoi indovinare quante? No. Almeno Bravo. Due. Almeno due. Ah, la faccia. Ho un 10, ho un 22, un 9 e un 11. Quanto hai di evasione? Evasione è 9 c'hai. Itano perché che c'ho gag, non so già contato. Ah, bravo. Ne hai messo 3. L'evasione va a scalare ogni volta che prendete, che evitate un attacco, scende di 1 finché non spendete un'azione extra per recuperarla. Quindi ora Zanzana 6 di evasione e prendi 3 danni da sta cagata. Wow, that's a lot of effort, such little damage. Ti ha graffiato 3 volte e ti ha shreddato l'evasion. Con un'azione extra si muove di 3 celle ignorando il percorso. Quindi esce dall'area, è tipo un'abilità magica. E davanti ad Adone, Eddie, ti tira un ingranaggio in faccia. Ma merda, lo ammazzo! Do l'ingranaggio antico. Fai l'ingranaggio antico. E devi evitare tu. Ah, ok. Devo tirare un D10? Sì, somma la tua dialettica. Ah, dialettica? Sì, sì. Ah no, aspetta, evitare? Sì, evitare, ok, devi sommare agilità, quindi più 0. Ah, ok. Scusami, cos'è l'evasione? È verde. Ah. Agilità, pardon. No, perché c'ho evasione 8, ma sì, non sì, è... no, no, è agilità, è agilità. Okay. Di 10 più 0. Sì! No. Ho fatto 1. Prendi 2 danni e inizi a sentire una musichetta. Va bene. No! Din din din din din din din. Per è un malus, se vi interessa, se a qualcuno di voi che si occupa di queste cose interessa. La dico così io. E fine del turno dell'Imp. Tocca ad Eidos, che dice, oh, non mi ricordavo aver messo sta canzone. E tocca ad Eidos, che vedendo Ivan che entra dentro la casa. Quanto cazzo c'ha di movimento sto tizio? 4 diviso 2, 2. Quindi, esatto. Fai giusto in tempo a... Forbid, I do something. Fai in tempo a aprire la porta con un'azione. Schiocca le dita e crea un secondo imp nel posto di vera lui prima. Della gravità, scusa, giusto per... Sì. Ah, ok. Questo invece ha rollato bene di imp. Ha quasi max rollato nello specifico. Madonna, veramente. E entrando dentro la cosa, dice, urla ad Ivan, esci subito di qua! E... Oh, He-Man! Oh, chat! I'm in trouble! E casta di nuovo il Dark Field di prima. Tanto, c'ho il mana che m'avanza. Le monetine fanno percorso. Voi che siete fuori dalla casa, in realtà siete immuni al Dark Field. Cioè, solo per quelli dentro la casa, quindi. Cioè, io. Però... Sì. Esatto. Fine del turno di Eidos, tocca a Zanzan. Zanzan si cala. Un po' di famiglia. Mi sembra una scelta. Dio porco. E spago nei denti alla Lomucus. Mi sembra un'altra scelta e devo fare un paio di conti. E... Down with the family. Allora, sei immune alla riduzione da evasione di qui sopra, credo. Non lo so, forse non conta come malus. Sono immune a tutti gli effetti dei malus, eccetto gabbia. Ok. Hai più 2 a colpire perché sei in melee, quindi hai più 6 a colpire. Rolla un di 10 più 6. Più 6 più 1 perché c'ho più 2 a tutti i test di fisica, tutti gli attacchi a raggio 0. Sì. Più 2 più 2 più 2. Hai giocato, hai contato anche per power. Sì, per quella più 2 più 2 più 2. Un di 10 vuoi? Sì, più 6. Sì. Più 6. Questo è quello appena spawnato. 13 hitta. Tirami i danni, che sono quelli dell'archibugio. Stai attaccando con quello, no? Sì, 2 di 8. belli puliti, belli onesti. Gli fai fuori metà della sua vita. E non so se conta che è dentro l'aria lui. Non so, non so da impatto. Non so da impatto. Eh no, l'archibugio fa perforante. Sì, no. E so se spendi un'azione extra puoi anche ricaricare. Spendo un'azione extra, posso ricaricare. E finisce il tuo turno. Ma sì, ricarichiamo l'arma. Ok, quindi al prossimo turno puoi già sparare. Questo secondo impa ha metà, cioè ha un buco nel petto ed è vivo in modo bizzarro, cioè ha una biologia diversa dalla nostra, chiaramente. Tocca ad Adone. Tanto fammi vedere quanti turni rimane attiva la gravità di Gideon. E intanto che pensi cosa fare, Slash, mi dici cosa vuoi fare. So cosa mi fa questo malus, posso immaginare, ma... Cioè. Ti riduce la ogni volta che casti una spell tirare un di 10 e fare più di 5. Porco Dio, va bene. Ovviamente non posso, domanda, posso attraversare tipo lo spazio di Naya per riuscire a cercare di andare verso... Sì, Naya, sì, sì, puoi. Puoi anche aspettare che qualcuno ti tolga il malus se vuoi. Grazie, Ghi. Brian. Sì, sì, sì. Stavo per dirtelo. Ok. Due li sono già passati, alla fine di questo turno ne rimangono... Sto pensando a cosa fare... Sì, sì, sì, fai pure. Se vuoi puoi aspettare qualcun altro, cioè te lo concedo. Ok, posso far andare qualcun altro. Chi è che tocca adesso? Tocca che... Ivan per primo. Poi Naya, Kayel, Erindor. No, a sto punto sai cosa? Mi sposto. Posso arrivare lì dietro da Zanzan? Sì. Allora, i primi due sono due. Questo costa due, quindi in realtà arrivi fin qua. Cioè arrivi una casella prima. Perché c'è ancora la gravità aumentata. Bene. Allora mi sposto lì. E provo ad aiutare Zanzan più che altro. Anche vedendo che Aidos è entrato in casa. E provo ad attaccare... tiro fuori la bacchetta e provo a sparare al... Di 10 non sei affetto dalla musichetta, non cambia la tua capacità di sparare proiettili. Di 10 okay. Più 3. Uno sul dado. Bene così. E guadagni un'esperienza. Ma è tipo il terzo uno che fai, Eddie? Lui con i dadi è così. Quando deve fare dei tiri inutili, 2-10. Pronti! E... Aspetta, help ti fa ritirare i test o no? Aumenta il risultato? Fai ritirare, ma questo conta come? No, no, non è un test, cioè non, lo puoi fare solo sui test, non sugli attacchi. Infatti, okay. Niente, hai finito il turno. Bene. E il malus che c'hai attivo scala di un turno, quindi durerà ancora un turno. Tocca ad Ivan. Sei all'interno della stanza, come ti dicevo c'è un oggetto in fondo all'edificio che non riesci a capire di preciso cosa sia e senti che è appena entrato Aidos urlando e ha fatto scurire ulteriormente l'area. Dimmi te cosa vuoi fare. Allora, non so se andare per l'oggetto. Scegli tu. Oppure prenderlo a pugni. Ok, lo prendo a pugni. Con queste mani. Perché c'hai i pugni. Sai che in realtà non ci arrivi? Perché questo ti costa 2, questo ti costa 2, questo ti costa 2. Ti serve 6 per arrivargli in faccia. What? Non puoi muoverti, cioè in diagonale è 2 ma è per 2, quindi non ci puoi allora, arrivare. Allora, se io arrivassi qua, oppure qua, e gli tirassi una porta in faccia... Quello puoi farlo. I do that. E rolla un di 10. Più tutti i bonus del... In caso di avversità. 8 più 1, 9, lo prendi tondo. Lo prendi tondo. mi rolli i danni. Mi sembra che da manuale sia la porta un D6. Ci guardo velocemente. E qualunque risultato, numero ti dica, però è raddoppiato perché sono danni da impatto, essendo una cazzo di porta. Vediamo qua. Mobilio. Qua mi dà 2 di 2 se per una sedia. Ma Ok, arma tira un impropria. D6, tira un D6. Si dovrei avere bonus Sì, ad l'avevo già arma contato. impropria in terra. L'ho già contato. Era per colpire, non per i danni. Fai 8 danni con questa cosa. Sto pensando. Lo tiro Prende indietro. 8 danni, prende 8 danni. Ok, meno Gli tiri la male. porta addosso. Madonna. Cioè, gliela chiudo in faccia, tipo. No, no, la stracchi perché non era molto resistente ai suoi. Ah, beh. Punk. Esatto. E hai un'azione extra, non so se puoi farci niente, altrimenti finisce il turno. Un attimo. Kickmaster. Basta così. Ok, perfetto. Andiamo a Gideon. Ok. Aspetta, riesco a vedere quanto vita ha l'imp qui vicino a me? No. No, ma ha subito danni lievi, medi. Lievi. Ok. Gli tiro un destroy. Di 10? No, non è vero, tu non c'hai un cazzo di niente, mi fai danni e basta, tira i danni. 6. 3 di 6, credo. S cos'era? 3. Perché è dialettica più 1. E Ah, speciale nella ok. riga 17 ce l'hai sulla scheda. Ah, Ah, beh. speciale, ok. Sì, 3 di 6, devi fare 8 per ucciderlo. Adesso che me l'hai detto. Ah, beh. Lo crunchi? Obliterato. Sì, sì, Sì, sì. proprio scompare. Sì, e in realtà scompaiono veramente, quando vengono uccisi spariscono. E ottenete tutti un punto esperienza. Ve lo Evviva. segno io, e questo vuol dire che procchi Bright Hands di Naya. Ok. E poi mi sposto qui. Dovrei riuscire. Sono 1-2, però sono in gravità Uno cosa qua, dovrebbe essere. due, sì, ci arrivi tondo. Ok, perfetto. Mi sposto lì. Ok, tocca a Naya. Allora, sprocca Bright Hands, che è una passiva, quindi non ti richiede azioni. Perfetto. Chi è che sta messo peggio qui nella nostra Zanzan. zona? Zanzan. Sempre te, Ah, pure. questa è la Cleric Beast. Gli recupera lui 2 di vita. Sto cercando di capire un attimo la situazione, perché qui, ok, qui non c'è un cazzo. Dobbiamo comunque entrare dentro, giusto? Sì, non è che c'è molta scelta. Zanzan è fuori di una casella dalla tua cura. Quindi fare un Se passo. devo fare quattro celle, la cosa di gravità mi affetta. Ok. E se lo fai dentro le cose, sì. Quindi puoi fare 1, 2, 3, 4. Ok, dai, facciamo così. Mi Ok. sposto qui. E poi dopo sono abbastanza vicina per aiutare Zanzan, Sì. cioè, per Sì, fare gli usare recupero 2 di vita. Bright. Sì. Non è Grande che lo usi, è una Zanzan. passiva procca. Sì. Ma Io quella sopra vedo. di me, la mia vita è sbagliata, C'hai 11 su 22. No, c'ho 16. Perché 16? Quest'anno. Perché sei partito dal numero sbagliato. No, sono partito dal C'ho numero 20. giusto. Hai rollato l'ultima volta per la tua vita totale. Ed Ah, era quel numero fatta. lì. Tu stai contando la tua. Avevo 29. Avevo rollato 28-29, non mi ricordo. Fuck. Ti giuro. L'avevo segnato infatti sulla scheda. E io lo sto tenendo sulla 16 di vita, Ok. non. Non so perché c'avevo. Forse l'avevi rollato e poi l'avevi rerollato? Possibile, sì. Ok, ci sta. Sì, avevo fatto due gol, avevo Sa che ha fatto. cancellato la cronologia sopra. Sì, fino al momento in cui serviva. Quindi ci sto. Ti segno 16 e ti segno 29 di vita massima. Cioè, ti segno la vita massima aggiuntiva. Ok, no, scusa, qua ho sbagliato. Eddie, io vedo il tuo puntatore glitchato. No, come? Puoi fare la freccia da qualche parte? Dove vuoi, per vedere se... Ok. Ok, me l'hai sglitchato, grazie. Nai ha fatto un'azione, cioè si è mosso. Hai un'azione base e un'azione extra. Ho fatto Bright Hands, non è un'azione. Zanzan, che lo so, non è un'azione, sto solo elencando le cose che ho fatto. Okay. Adone, che cazzo è che aveva? Non ho capito, scusatemi. Ha un malus, che dura un altro turno. Ok, beh, glielo tolgo, se posso. Come vuoi, puoi... cioè... Sì, sì, glielo tolgo. E usi Expel Evil... Help. Sì, succede Bass... Riduce la difficoltà di 2 di 8. Mi rolli 2 di 8? Sì. Dai, Dio cane, non è possibile metterci così tanto. Tra un turno finiva. E ti segno l'esperienza di sta cosa qua, che va a 10. E ti segno il mana che hai speso e vai a 11. Quindi adesso non posso usare magie, giusto? No, perché l'hai già usata. Sì, gliela tolgo comunque. Cioè, anche se fai 3, cane, si toglie. 5, 8, 13. Ok, gliel'hai tolto onestamente. Non per la mia bontà. Okay. Però sì, hai un'altra azione extra da usare. No, aspetta, questa è un'azione extra e ancora un'azione base, pardon. Dimmi tu cosa vuoi fare. Non posso spostarmi di nuovo e non ho più un cazzo da fare. Passi. E mi sa che posso vedere un attimo se riesco a capire qualche punto debole di sta merda immonda che abbiamo davanti. No, ti ho già fatto fare il roll per quella roba lì. Ci sta. Vado a Keyel. Yes. Sì, sono ok. Inutile. Si mette... Cioè, da qua spara e poi si mette qua. Tiro per colpire l'imp. Lo colpisce, gli fa 3 danni. Non è molto utile, come vi avevo detto. Tocca a Derindor. Allora, io mi muovo il massimo per un'azione di movimento e casto di nuovo Seeking Light. Sì, ti segno il mana, ti segno la roba sulla l'esperienza. Ti tolgo le monete. Le due monete sono sulla stessa casella. E fine del tuo turno. Sì, direi che hai fatto entrambe le azioni. Sì. Tocca a Eidos, che è all'interno della stanza. Si mette qui, cioè fa un passo. Tira un pugno ad Ivan. Ti prego. Per divertimento. 35. Ti fa un di 6 danni. Ti fa 12 danni perché sei all'interno dell'area con gravità aumentata. Ti tira un pugno con una forza disumana. È come se ti avesse travolto un carro. Riesci a rimanere in piedi quasi per miracolo. Ti dice, guardandoti dall'alto in basso, perché comunque ti sei un minimo piegato per il colpo, ti ho detto di non entrare. E schioccando le dita evoca un altro imp che ti taglia la strada. Oh, mi scliccato. Ho fatto quasi lo stesso risultato. E qua aumenta la fatica. Se muoio. E lui ha finito le azioni, tocca a Zanzan. Vabbè, io vado da lui a coprirgli le palle. Domanda. Vai. Vai. Non subiscono il... Non sono rallentato dalla cosa. Sì che sei rallentato dalla cosa. Beh, nel senso... È un malus! È immaginare. Esatto. Se è un malus... La cocaina! Io sono convinto. La gravità non ha effetto sulla cocaina. Cioè... Io sono persuaso da questa motivazione. Vai, sei immune alla gravità aumentata. Adoro. Ottima, ti muovi di 5 però, quindi c'è ancora un paio, cioè, come cazzo non ti pare. Ok, ok, vai, vai. Sono arrivato. Cosa stai facendo? Gli sto tirando un ficcone nei denti. Ah, un pugno? Sì, sì, sì. Rolla... rolla i danni, sì, sì, entra. E sarebbe un di 2. Più i bonus di coso. I bonus possibile, quindi è 1... più metà del mio fisico. 3 4 fa 4 danni per 2 8 danni. Sì, ok, posto. Io ora sto per fare una scommessa che sono sicuro di cui mi pentirò. Vedi Eidos scomparire nell'oscurità, ok, quindi il tuo pugno gli passa attraverso perché rimane il buio, e quando ricompare è lui a tirarti un pugno. Fai counter mo. E ti fa 4 danni. Ok, sì, meno 1, se non l'hai già tolto. No, te lo ti ridò un punto vita. Ah, no, è vero. Sì, sì, sì, sì, c'hai... Sì, sì, sì, no, sì, boh. No, no, no. Nel senso, se vuoi usare guard, c'hai guard attivo, fine della cosa. Sì, vabbè. Perfetto. Sì, sì, sì. Mi ha finito il mio turno, quindi... E... boh, ha fatto questa cosa strana di... sparire e riapparire. E... fine del tuo turno, tocca ad Adone. Ok, Adone a questo punto. Ah, io sono ancora rallentato. Ho sì, sbagliato. Ma non sei più sound fact. Per grazie a Dio. No, grazie a noi. Quindi mi posso muovere di 2 oggettivamente. Sì. Dovresti andare qua? No, perché quello è. No, no, fai 2 caselle, quindi è. Ogni casella è un movimento ortogonale. Ok. Si può andare o qua o qua. Ti scacchi. Sì. E a questo punto basta provo a riattaccare il Limp con con la vai. È stupido, però gli faccio danni da fuoco, non è che me li di mezzo o me li annulla. Non lo sai, prima non gli hai fatto, cioè, gli hai fatto i danni normali con quelli da freddo. Dai, proviamo ad attaccarlo con la bacchetta. Ok, rollo di 10 per colpire. Entra, tira i danni, la bacchetta fa... 1 di 6. E allora aggiungi, cioè rollo di 6. Mm-hmm. 5. Devo resistere all'ustione. 7, no, hai ustionato il coso, ma è resistente ai danni da fuoco, e quindi la fiamma lo brucia poco. Però è ustionato. Guadagni un punto esperienza con la magia. Hai finito le cariche sulla bacchetta, quindi devi spendere un'azione extra per ricaricarla, se vuoi usarla ancora. Dimmi te. Sì, dai, facciamo che uso una... Ok, hai finito il tuo turno. Hai finito il tuo turno, quindi tocca ad Ivan. Siete all'interno della casa. C'è un nuovo imp... E hai appena visto Zan essere colpito forte almeno quasi quanto ha colpito forte te. Allora, io mi prendo una pozione delle mie. Ottimo. E ha un'azione extra. E... rolla un D6. Recuperi 5 di vita, era molto semplice. E tiro 2 cazzotti. Oh no, tiro una. Dio, non so cosa con cosa faccio più segno. Con. Cioè, coi bronze glove o coi cazzotti? Fai più danno. No, o con la porta. Lol. E no, fa più danno al pugno, credo. Ah, faccio. Ok, faccio poi pugni. Rolla 2 di 10, credo, sì. Usti. Il primo fallisce, il secondo mi tira un altro di 10, ma va a segno. Cioè, mi tira un altro di 10 per mia soddisfazione personale. Di vedere che hai fatto 19. E fa 2 di 2 più 2 danni, sta cosa. Scusa? 2 di 2 più 2 danni. Uff. Puoi fare un D... cioè non è proprio la stessa cosa, però puoi fare un D4 se preferisci. Se mi scrivi cosa scrivere, lo incollo. Sì. E te lo scrivo su... Aspetta. Su Discord. Vai. Thanks. Non mettere spazi prima, sennò ti fa... No. Ok, gli fai 6 danni perché siete ancora all'interno della cosa. Quanto cazzo è bella sta canzone. E... hai usato un'azione base, hai ancora un'azione extra e un'altra azione base. No, non è vero, l'azione extra l'hai usata per recuperare vita. Hai solo un'azione base, puoi o muoverti... oppure usare Kickmaster per tirargli un calcio. Sì, faccio quello. Stavo di... quello sì, di 10. E qui hai più... Entra. O- oggi faccio, faccio sempre uno meno il massimo. E... va bene così. Mi tiri un altro... tirami un D4. Fai 4 danni. E fine del tuo turno per davvero, stavolta tocca a Gideon. Ok, allora io mi sposto qui. Okay. E Madonna. No, la canzone di e tiro un destroy contro Eidos. C'è un muro tra te e lui, non puoi farlo. Oh no! Ma scusa, la porta è la qua. Porta? Qua. Ah, no. Pensavo fosse qui perché Ivan gliene aveva tirato in faccia. No, Ivan allora... è entrato dalla finestra. No. Che è qua. Allora mi sposto qua e tiro un destroy a Limb. Perfetto. Tirami i danni direttamente. Che sfiga. Che sfiga. Proprio sprecarle così le cose mi fa un male. Ti do 2 punti esperienza. Hai annichilito completamente Limp. Mi rimane un movimento, I guess, lo faccio qua. Sì. Va Naya. Dimmi. Che dite, la tolgo la gravità oppure no? No, no. Tiello, è l'unica okay. cosa che sto facendo fare. Ok. È che fa danno anche a voi lui, però va bene, la tengo. Dai, continuiamo. Naya. Però almeno recipro. Quanto può camminare Naya? Può entrare dove vede l'oscurità di merda del dio porco? No. Cioè posso togliere di nuovo l'oscurità del cazzo? Quello, toglierla quando vuoi. Cioè basta che casti expel bullshit. Anche se non la vedo, porco sì. Dio, allora expel is bullshit. E succede, la tolgo e tu consumi uno di mana e un'azione extra. Kill yourself. Non lo dice, però lo penso io. Bello. Perfetto. Questa è un'azione extra, quindi hai ancora 2 azioni base. Allora, voglio spostarmi. Quanto posso spostarmi? 2, nella gravità. Tipo qua. Sì, esatto. A un metro dalla porta, okay, cioè vedi Zanzan ma non vedi Eidos. Perfetto, va benissimo così. Ok, hai un'altra azione base. E Zanzan in che condizioni è? Non è messo benissimo, ma l'hai visto messo peggio. Posso lanciargli un... fammi vedere che cazzo è che ho. Tipo un unguento. Sì, puoi. Come azione base te lo faccio fare. Allora, non questo. Unguento? Aspetta, guarisce le ferite. Una pozione mi sa che sia meglio. No? Come vuoi. Aspetta. E sì, mi sa che è pozione perché è nella... Sì, una pozione. Rolla un D6. Dio cane, se ti cade, se mi cade. Hai finito il turno, quindi intanto faccio il turno di Kayel per velocizzare. Sì, ti prego. Kayel più 4. Kayel si... Dimmi. Ce l'ho sempre una reazione. Sì, ce l'hai in ogni turno, basta che sprechi uno di fatica. Vuoi usarla subito? Yes, thank you. Vai, rolla. E ti basta un 4. Itta, tira i danni che sono un di 2 più 3. Tutto per 2. 8 danni. Ok, gli hai fatto male. Kiel si mette dalla finestra, cioè in posizione corrispondenza alla finestra, e spara a Limp alle spalle. Queen. Era destino. Gli fa 4 danni. E tocca a Erindor. Allora, io mi avvicino sempre di più fino al bordo della cosa, quindi più o meno qui, e lancio la mia ultima moneta. Okay. E grido agli altri di prepararsi, perché gli altri arriveranno prima o poi. Agli altri di allontanarsi. Le monete scelgono la strada più veloce per arrivare al bersaglio. No! No! Non so. Mi fa che ci sia qualcuno di mezzo. No! No! No! Era destino. Era destino. Hai alcune monete che ti stanno girando intorno. Sono tutte molto luminose, allegre e felici. Io... Però è il turno dopo, eh? Cioè, sì, puoi, sì. Puoi scappare. Hai tutto il tempo. Io ho urlato. Hai urlato fuori. Come pensavi che sarebbe morto, Naya? E perché non così? Non così, cioè nel senso... Porco Dio, Dio porco. Chi senti fuoco della gravità? Tocca a Eidos. Schiocca le dita. E aggiunge, sta diventando affollato. No, aspetta, ho saltato il turno del Limp. Il Limp attacca Ivan prima. Madonna, Eidos bot farm, mob farm. Ah, il primo Limp di prima che ha ucciso Coso dà un'esperienza a tutti. Tra un attimo ve la segno. E questi qua credo entri solo il 9 su... No, cazzo, entrano tutti. Perché più bene. 5. Prendi 5 danni. Vai a 4 di vita. Tutti voi guadagnate un punto esperienza dalla cosa di prima. Uso Bright Hand su me stesso. Vaffanculo, va. Sì. Ma sei in full vita o no? Puoi usarlo anche per recuperare il mana. Treat yourself. Treat yourself quando c'ho... Vabbè. E sempre Limp lancia un altro di quegli ingranaggi alle sue spalle verso Kiel. È Kiel che deve resistere. Fallisce, Kiel sente la musica. Ok, Eidos crea un altro di questi imp. Non finiscono mai! E non... Rotoloni regina. Eh sì, è proprio quello. E sono ancora lontano da fare le cose funny. Ma posso fare una cosa che odierete. Ed è che lui prende un bel respiro. No. Eccolo. No, ha recuperato vita. Prende un bel respiro con la prima azione. Con la seconda azione tira un pugno a Zanzan. Ok. Ah, non va full. No, ha fatto il Gear Fourth. E... Vabbè, raga. Entra su Zanzan. Max damage, raddoppiati, prendi 12 danni, Ika. Hai guard attivo, quindi in realtà prendi 2 danni in meno. Perché è meno 1 per 2. Le matematiche, queste cose, un po' di noi scienziati, eh. Vabbè. E fine del turno di Eidos, tocca a Zanzan. Senza la cura di Naya di prima, eri così. Interessante. Ok, tra poco ti raggiungo, fratello. Allora. Io ho urlato di correre al riparo. Vogliamo fare meta? Dimmi. Potevi urlarlo 4 turni fa, forse, che stai lanciando la bomba atomica. Perché il mio piano attuale in realtà è di spostarmi di uno e tirare i gas sui... Bellino! E... in linea. La versione meta di questa cosa... No, ancora meglio, mi faccio... mi sposto qua che c'è Rivo e Teogast sul primo Imp e su Eidos. Bello. Fai un buco nella parete, così i proiettili vanno direttamente su Eidos. Questa è l'area di impatto. Porco Dio! Mi sa che vogliamo tutto. Pazzi! Vieni Fatto... si ricordi il total party kill che ti dicevo? Sì. Sta andando diversamente da come l'avevo buttata lì come battuta. Già. Se abbiamo detto che... 1, 2, ma le... 3... Posso addirittura impatto uscire dall'aria? Impatto di cosa, scusa? Wow. Vieni, e dei fantastici proiettili di merda di Erindor, Dio povero. Impatto... Scusa, impatto di cosa? Delle testate nucleari che stanno girando in aria. Poi Erindor c'è dentro. No, noi intorno a Naya, amo, intorno a tutti. No, in questo momento sono nella tua cella, però... Naya diventa l'ombra che c'è nella centrale di Cerno. Tecnicamente però c'è gli altri comunque... un muro. Cioè, Rick, stai guardando la mappa? Sì, una Rick bella... mi aveva detto che mi ammazzava, però... Sì, sono consapevolissimo. Non ho dove andare. Rick ammazza anche se stesso. Puoi spendere tutto il turno per correre e muoverti del doppio del movimento. Pianish, ma Devin che fine ha fatto in tutto questo? Non l'avete più visto. E Ika, dicevi? Behavior. Ma Zanzan non è un fifone. Dimmi tu, allora tanto vale che resti lì e lo meni. Sì, infatti. No, mi sto fuori dall'aria qua. Che sono bello. E casto Gust verso di lui. Ah, lo sbatti contro il muro. Yes, in teoria sbatte sia l'imp contro di lui che lui contro il muro, correct? Che li muove tutti. Dipende quanto range c'ha. 5 sì, per sì, sì, devono resistere. Devono resistere. E resistono con 5 più 2 per M più livello. E resistere Eidos c'ha, mi sa che c'ha 11. No, c'ha 10. 2 per M sono... Fatto 8 e 13. Allora, 5 più... a M ce l'hai raddoppiata, c'hai più 2, quindi c'hai 5 più 8. Molto figa, non è? 13, 13 più 3, 16. Sì, la difficoltà è 16. Ok, nessuno di della passata. No, infatti. Subiscono un D4 danni da impatto. Yes. Mi rolli un D4 per entrambi. Dai, dammela buona. Vabbè, perché c'è il guess. L'imp prende 4 danni, vai per Eidos. Sei no, vaffanculo, prendo uno di fatica e lo evito. Posso farlo. E avete capito cos'è la barra rossa? Sì, ne stavamo già interrogando prima. Cos'è la barra rossa? È evitare o è resistere? Resistere. Dio porco, non posso farlo. Prendo 6 danni. E lo sbattere sul muro non succede qualcosa con gravità maggiorata? L'ho già calcolato. Prende il doppio dei danni. Ha fatto 3 per 2 e 6. Il muro in sé, dicevo proprio il muro in sé. Però... Vabbè, il muro prende 6 danni, ma il muro c'ha un paio di punti vita in più. Okay. No, non so se... Allora io sto a posto. L'impatto viene contenuto. Stai dicendo, Ika? Perché c'è scritto anche chi fallisce viene atterrato. Però non so se si applica se sbattono contro il muro o meno. Sì, sono atterrati entrambi. E non è molto interessante su Eidos, per motivi che vedrai tra poco. E sul Bimp, sì, l'Imp è atterrato, non credo che... lo segno. Tanto muoio questo turno, dici tu. Cioè... Credo anch'io. Esatto. Ti segno l'esperienza per magia naturale. Hai finito il turno, tocca ad Adone. Bene. Allora. Io lascio questa cosa qua. Io non ho modo di avvicinarmi. Tra l'altro la mia domanda è, se vado avanti sono nello spazio di Gideon o di Sara? E insomma non mi sembra sensato. Sara? Se vado indietro e di... Scusatemi, di Naya e Gideon. Ok, nomi di 4 lettere sono tutti uguali, sono d'accordo. No, però al di là dei meme, l'area però, cioè, se voglio dire, è un impatto che se le monete passano oltre il muro, il muro dovrebbe ma non tenere, come fanno a passare oltre il muro, Rick? Passando dalla porta? Se tu lanci una bomba, ma se la bomba decide di, tipo, girare intorno... Però sono delle monete inermi che seguono un bersaglio, non è che... Il bersaglio è dietro la parete. La parete è accanto a Naya. Hai in mente quando fucilavano la gente? Sì, fa una cosa lì al prossimo turno. E se lo fatti adesso che scoppiano qua. Vai, allora delay ancora. Se io voglio che arriva dentro la porta, però... Spostate Aidos di una cella. E poi tegli la bocca. Perché il turno di gravità sta finendo, quindi io alla finestra non ci arrivo, quella per... Dove c'è Keyel? Tu ti muovi di 4, no. Quindi arrivi fin qua. Ma ci sono dentro l'area... Se vado avanti mi muovo di 2. Cioè, non è che devo per forza attivarlo, non è che adesso... Sì, io lo tengo per una questione mia estetica. Quindi non vanno a impatto di... Cioè, non sono come dei proiettili che vanno... No, non fanno un cazzo. Non lo colpiscono nemmeno. Gli stanno molto vicini quando... possono. Ok. Però... Erindor ti ha detto di allontanarti da quella roba lì. Quindi sa qualcosa che tu non sai. Ascolta, io... Expel evil su Erindor! Scusami, vai. Spenderò... posso usare la mia azione extra per muovermi più lontano? No, puoi spendere tutto il turno per farlo. Ok. Allora userò tutto il mio turno per spostarmi e... Ti muovi del doppio del tuo movimento, quindi. Ok, a questo punto mi sposto. Cioè... Vado, Erindor mi ha detto di andarmene. Sì, sì, infatti. Allora si sposta là. Vai, fagli da solo, cioè. Io fatto. Perfetto. Tocca a Ivan. Allora, abbiamo detto che l'area di danno fa danno anche se ci sono le pareti, no? Probabilmente sì. Yeah. Cioè, allora corro. Dipende, ok. Dove corri? Corro verso la fine della stanza, I guess. Verso il baule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E te ne avanza ancora uno. Correndo ti muovi di un sacco. Arrivi fin qua. Va bene. E fine del tuo turno, perché correndo hai fatto sta cosa qua. Tocca a Gideon. Il muro mitigherà i danni realisticamente, però qualcosina vi faccio arrivare. Ok. Ah, oddio. Io... scusami, allora. Se invece tipo salvo. Spingesti tizio verso l'altra parte della porta, cioè vuol verso... dire che poi rimani lì. No, dall'altra parte della porta no, perché deve fare una U. Quindi è all'altro. No, non dall'altra parte, però tipo verso il buco della porta. Eh no, perché c'è un muro, cioè la porta è un metro dietro. Niente. Salve, se salvarti il culo. Sì, esatto. E tocca a Gideon, dicevamo. Sì, riesco a arrivare fuori dalla gravità se faccio tutte e due le azioni per sì, la sì, corsa. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Allora, no, dov'era il range? Dell'esplosione o del tuo movimento? Sì, dell'esplosione. Riesco a arrivare fin qua? Eri a fianco a Naya? No, eri qua. Sì. Ah. Ero a fianco a Naya. E rispetto all'altra monetina, sì. 2, 4, 6, 7, 8. Sì, ci stai tondo. Ok, perfetto. Allora però... corro fin lì. No, c'hai altri due celle di movimento se vuoi. Perché c'hai 5 di base. 5 per 2, 10. Va bene lì. Okay. Va bene lì. Naya. Volo alle ali ai piedi. In che direzione? La stessa di Gideon? Quella. Penso proprio di sì. Cioè, vedi Gideon correre e porco io, cioè non. 8, tu arrivi fin qua. Non ti puoi andare verso. Sì, infatti, non ho capito perché. Cioè. Sembra nei film quando ti sta crollando un palazzo addosso molto lentamente e tu invece di andare un metro di lato lo fai tutto in verticale. Non mi sembra molto intelligente, detto fra noi. Credo che Naya non sia così stupido. Ok, no. Hai ragione, Naya è più intelligente di me. Facciamo che corre per sua salvezza. 2, 4, 5, 6 e da qui dimmi te dove vuoi andare. Sinistra o destra? Qui, verso Keyel. 7, 8. E non ti posso muovere perché il tuo personaggio è selezionato da te. E visto che stai laggando, non me lo fa spostare. Ok, me lo fa spostare. Qui? Sì, fin qua arrivi. Qua sei comunque dentro l'area, ma c'è un muro tra te e lui. Mentre invece dall'altro lato... Sì, boh, c'è un muro in mezzo, devi pregare che il muro regga. Tocca a Kayel. Kayel spara. Ah, proprio fearless, mi piace. 11, itta. Spara a Eidos. Non gli fa danno. È la prima volta che la pistola di Kayel colpisce Eidos e gli fa... Cioè, è come se non avesse preso nessun danno. Oh no. Il resto del suo movimento si sposta. Okay. Non so se uno di voi ha una spiegazione per questa cosa, io non vi dico niente, perché tocca ad Erindor. Posso spendere il turno delle mie monete? Cioè, puoi? Se appiccicano alla parete, attendere il turno di movimento delle sì, mie sì, monete? Sì, puoi. Rox, puoi fare la freccia da qualche parte? Sì. Che sono... Cioè, ti ho glitch. Ok, grazie. E al termine del turno cosa vuoi fare? Chiedo scusa a tutti per una lieve scossa e poi scasto Shock Trendris. Non abbiamo la canzone giusta, cioè serviva qualcosa di più figo di questo. Shock Trendris ha raggio 10? Sì. E non lo possono evitare, giusto? No, è un danno, per Arnor di cronaca. Aua! Auci. Faccio quello di BGO. Allora, da regolamento tutti voi resistete con difficoltà 7. Quindi ognuno di voi mi deve... con difficoltà 7, non al danno. Il danno, un danno d'elettricità lo prendete tutti. Ok, ma con che stat resistiamo? Dialettica. Ok. Quindi un di 6 più dialettica. Un di 10 più dialettica. Ah, un di 10. Caster. Cioè, fare anch'io faccio... No, tu sei immune. Vai viva. Grande! Oh! Per un anno di tono... Più due. No, devi tirare un altro. Ti sta arrivando. Ok. Dai, non esageriamo. No, aspetta, ho tirato un qualcosa di sbagliato. Vabbè, è comunque 5, dai. 20. Figa, c'hai 20 di rendi questa cosa. Eh sì. Dio porco, prendi anche Zanzani, prendi anche Kayel, prendi anche... Ho è tirato global. Un D12 invece di un D10, Bianic. È uguale, il 10 bastava. Prendi anche Ivan dall'altro lato della stanza, prendi anche l'affare qua. E prendi le monetine, si è fermata la musica, sono combattuto, ma forse va bene un po' di silenzio. Se qualcuno vuole far ripartire... Ah, non sapete la playlist, la rimetto io, ho capito. Quello che vedete succedere... è che le monetine, quelli di voi che stanno guardando, gli altri non lo vedono, iniziano a caricarsi di energia del piano fisico, qualunque cazzo di cosa voglia dire questa cosa per voi che non sapete cos'è, finché non ritornano alla loro forma naturale di pietre, ma nel farlo sprigionano una energia innaturale. Mi rolli i danni. Sono 3 di 8? 3 di 8 per 2. Cioè, tu rolla 3 di 8 e poi li moltiplichiamo per 2. Ok, penso che faccia male, però non... sono 30 danni. L'esplosione è travolge sì. Madonna. L'esplosione travolge e distrugge i due imp, quindi tutti guadagnate 2 punti esperienza, ora ve li segno con calma, ma soprattutto l'esplosione travolge Zanzan, che prende 15 danni, e Zanzan ci saluta e non ci saluta nel modo divertente. No. Aspetta che ti sto attivando una cosa che stavo facendo. Tieni. So dove me la stai mandando. Poi devi raccontarla bene. Sì, hai sì. Appena ucciso Zanzan, no, e dipende... l'hai contata come se fosse... No, dipende cosa decide di fare. Dove l'hai... Ah, okay. Lettera per tu. Wow. E... vuoi giocare il ricordo? No. Lo lasciamo così. Sì. Ci saluta. Ok. E... No, Zan! Zanzan ha 6 di vita sotto 0. Con questa esplosione va a meno 9. quindi muore. L'esplosione polverizza una parte della casa, cioè proprio vedete la casa che si sbriciola, c'è una cavità al posto della porta, non ci rimane un cazzo, tutti i licheni, le piante che stavano crescendo su di essa sono completamente polverizzati, non rimane niente, solo carbonizzato e ferito c'è Eidos, che si alza con gli occhi completamente neri, ok? Con un'aura molto maligna intorno a sé, e dall'esplosione, quando il fumo si leva, vedete il cadavere di Zan Zan, travolto dai detriti, a terra sdraiato in un bagno di sangue. Palesemente colpa di Eidos, che io non mi assolutamente. E sai, stavo... Vabbè, non sei visto, non sei visto. E fammi double checkare tutte le cose, ma sì, niente, finita. Zan Zan è morto, Ica. Zan Zan è morto. Io... Ma perché non hai giocato il ritorno? Non era il momento giusto. Lascia andare così. E dopo di Erindor tocca ad Eidos. Eidos si alza in piedi. Non so chi è che può vederlo, perché in realtà lo possono vedere solo Gideon, Erindor e Ivan. Naya, i detriti ti travolgono ma non prendi danno, è solamente tipo questa nube di fumo e di polvere addosso, quindi sei sporco, non sei danneggiato. Quindi Adone, quanto si vede? Cioè, non vedi un le cazzo. Pareti sono andate? Sì, è andata la parete, non vediamo niente. Come si dice, occidentale, la parete sud è diroccata ma è ancora intera. L'esplosione è così forte che tutti sentite un fischio nelle orecchie fortissimo, e quelli di voi che vedono l'interno, quindi tutti tranne Adone e Naya, vedono Gideon, sì, ciao. Vedono Eidos alzarsi con tutti i vestiti strappati, carbonizzati, eccetera. E vedete che... Udo? Praticamente sì, perché è tutto carbonizzato. E vedete che le sue gambe sono estremamente pelose, come quelle di un animale, di un lupo, nere. E terminano non con dei piedi, ma con degli zoccoli. È un fauno. Sulla schiena ha delle cicatrici strane. Cicatrici sono strane in questo mondo, le cicatrici strane sono due volte strane in questo mondo, quindi a forma di tre linee, sul qua, dall'altro lato, e poi una in fondo che arriva da metà schiena fino al culo, che vedete coperto quasi interamente dalla peluria, pelliccia, quello che è. Gli occhi ora sono completamente neri, qualcuno di voi dovrebbe avere un ricordo di questa cosa forse, e... Non avete mai visto una persona così incazzata in vita sua? Mai. Cioè, è proprio furioso. E... Non lo è abbastanza, mi dicono le statistiche. In che senso non lo è abbastanza? Nel senso che mi tocca ricreare l'area nera. Poi, come seconda azione... creo un altro imp che va a sostituire quelli che sono appena morti. Lo metto con calma. E ora che finalmente c'ho la cosa, crea un'area grande come quella oscura, in cui il terreno è completamente tappezzato di simboli rossi che a Naya ed Adone ricordano il sigillo che hanno visto. Però immaginalo come un frattale, come se fosse un ingrandimento di un frattale il cui la visione più grande è il sigillo che avete visto. E questa cosa qua ingloba tutta l'area, ok? È enorme. E Eidos sta pronunciando delle parole in una lingua che non dovreste comprendere. Sì. Che sembrano imprecazioni. E scaduto l'ultimo penultimo turno della gravità, tocca ad Adone. Non sai che Zan Zan è morto. Certo, però domanda, io adesso ho una visione abbastanza, cioè se mi sposto qua un metro a sinistra allora se vai in realtà lo vedi Eidos, lo vedi, okay. Cioè c'è il metà della figura, metà è dietro quello che resta del muro e l'altra metà è visibile. Ok, a questo punto io da qua lo riesco a colpire con la bacchetta, giusto? 9, la bacchetta mi sa che ha 5. Fammi double checkare. Beh, nel caso pensavo di spostarmi qui avanti. Se ti sposti ci arrivi. Cioè, mi raggio 6, scusa, non 5. Quindi devi arrivare almeno qua. Ci arrivi tondo. Sì. Tira un 10 per colpire. E lo attacco. Vai. Entra, tira i danni. Perfetto, un di 6. Più something something. Dai, porco dio. Dammi solo un secondo. Sì, gli fai un danno solo, non era bonus. Devo rollare per resistere all'ustione. 12, la difficoltà è settata a 10, quindi lo supera. Lo messava solo con 1, ha fatto 2. Fine del tuo turno, a meno che tu non abbia un'azione extra. No, perché tanto già... Ok, tocca ad Ivan. Allora, anche voi potevate usare la vostra memoria per salvare Zanzan, eh? Ormai è andata sta cosa, però potevate. No. Ah, ok. L'avresti usata? Era un po' responsabilità di Erindor. Un po', era completamente responsabilità di Erindor. Tocca Ivan. Erindor ha appena ucciso il suo compagno. Non sarà la prima volta. Questa volta è consapevolmente. Io chiedo consapevolmente adesso. Il mio famiglio lo sento ancora vivo? Sì. Ok, no niente. Just checking. No, no, man. Fine. Since non ho modo per... mi ha fatto un altro unguento, I guess. Boh, no. Ok, va bene. Cioè, se vuoi, è un'azione extra su di te. Ok, e poi vado per il baule. Ok. Lo apri? E lo apro. Il baule è chiuso in maniera non troppo ermetica. Lo definiamo baule, ma è un contenitore di forma strana, circolare. Non sferica, cioè tipo un cilindro, immagino. Non si capisce di che materiale sia, perché il colore è sul marrone come se fosse di legno, però sembra metallico. E... Ma io ho le mie skills. Già, mi fai un roll. Manomettere. Manomettere hai più 3. Ti tiro un 10? Sì. Io direi che basta. Riesci a capire come far scattare questo meccanismo, perché l'hai già visti nella centrale, banalmente. E quando si apre, sei travolto da un bagliore, come se all'interno del baule, del contenitore, ci fosse della luce pura. E c'è un solo oggetto al suo interno. È difficile da definire, cioè per Ivan è proprio una roba, un oggetto impossibile. Dammi solo un secondo. Sembra una sfera composta da anelli luminosi, sulla superficie di ciascuno dei quali sono incise scritte che non riesce a comprendere. Gli anelli si muovono costantemente in modi impossibili, cioè è come se si... come se formassero delle catene e le sciogliessero, però tutto senza cambiare forma, ma contemporaneamente cambiando la loro posizione, cioè una cosa di geometria non euclidea. Infatti ho scritto come se fossero una proiezione tridimensionale di un oggetto con molte più dimensioni. Non hai idea di cosa sia, non hai mai visto niente del genere, non... In effetti non ti avevano descritto cosa fosse l'artefatto, ti avevano detto solo che faceva luce. Questo oggetto sta effettivamente facendo luce. Ti faccio... cioè dimmi cosa vuoi fare e poi finisce il tuo turno. Posso investigarlo? Non lo so. Non ti faccio rollare niente. Come si può distruggere? Boh. Non hai la più pallida idea di niente di tutto questo, cioè non sembra venire da questo mondo, è proprio una roba aliena. Ok, I guess che comincio ad andare verso la finestra, tipo... Lo prendi l'oggetto, lo lasci lì, cosa vuoi fare? Non ho capito. Ah, lo prendo. Ok, quando provi ad afferrarlo, l'oggetto è vuoto per la maggior parte, sono questi anelli di luce che lo compongono, quindi è strano che tu riesca ad afferrarlo. E infatti le tue dita non lo toccano, è come se toccassero uno strato superiore invisibile, e però lo riesci a tenerlo in mano, e avverti un forte calore provenire dal suo interno. Finisce il tuo turno, cioè finisci il turno con questo oggetto in mano. E tocca a Gideon, perché non hai altro movimento da spendere. Vai Gideon. Ok. Allora, uso l'azione extra per rimuovere la gravità, tanto sì, ormai i pugni sono andati, così posso arrivare fin qui e tirargli un destroy. Sì, sei in range, rolla direttamente i danni. Nice. Ok, col cazzo che li prendo. Il tizio prende, sparisce e poi ricompare per evitare il tuo destroy. Ok. E lo vedi estremamente affaticato da questa cosa, cioè proprio ansima. Ho ancora un po' di movimento? No. Ah, niente. Allora finisco. Ok. Tocca Naya. Non vedi ancora. Tolgo la merda di ombra del cazzo del dio porco. Togli la meglio. L'ombra la vedo, cioè il buio lo vedo. Sì, togli quella cosa lì, viene rimossa, va benissimo, però i segni per terra rimangono attivi. Ok. Quindi quella merda non posso dispellarla. Non sembra possibile. E non posso neanche ricattare Expelliarmus. Bright Hands lo posso usare? Mi sembra che abbiamo guadagnato un XP, no? Sì, avete recuperato tutti i due punti. Avete guadagnato tutti i due punti esperienza avendo ucciso i due imp. Senso, dio porco. Okay. Gli imp sono morti dopo la sua morte, no? Cioè, contemporaneamente. Oppure potevamo salvarlo anche in quella situazione. No, è procca Bright Hands su Naya. Era un'altra cosa che ho detto. Ah, ok. Quindi se ti segno... risposto in direzione. E come azione in più posso spostarmi verso... Chiele, chiedere se può dispellare il sigillo di merda sul pavimento. E glielo urli? Sì, dio porco. Ok. Tocca subito a Chiele. Ti guarda. Prova a mettere le mani per terra. A fare qualcosa. E la vedi come se... Hai presente che è parzialmente meccanica. La vedi come se smettesse di funzionare. E se iniziasse a muoversi in maniera erratica, alza lo sguardo verso di te e dice: abbiamo un problema. Tocca ad Erindor. C'è Gideon in linea di tiro, quindi mi sposto più o meno qui, direi, e provo a rispararmi. Rolla un D10. Senza malus, sto giro. E sì, anzi, c'è dei bonus. C'è tipo più uno. Fammi double checkare. Hai più 2. Sì, non lo prendi. Hai consumato un altro. Posso proiettile. Usare help? No, perché non è un test. Help lo potrai usare adesso. Perché tutte le scritte che sono comparse per terra esplodono. E quindi tutti quelli nell'area devono resistere a questo. Resistere? Non mi ricordo se è resistere o evitare. Fatemi cercare. Come fai a evitare una roba? No, infatti è resistere. Allora, prendete tutti un D8, lo prendete pulito. Cioè, qualunque cosa succeda. Vedere l'area? L'area è quella viola che vedi gigante. Ah. Esatto. Bello! Non vedi l'area perché è tutto l'area. Ti sei rollato per farti danni da solo. No, te li rollo io i danni, non ti preoccupare. Ah. Rolla un... Allora, andiamo in ordine. Partiamo da Eddie. Ha rollato tutti un di 10 per evitare sta roba qua. La difficoltà è 15. Sommate la vostra dialettica. Quindi dovete fare 10. Vai, Eddie. Sì, ci sono, ci sono. Poi... prendi 2 di 8 danni. Io cane. Aspetta, prendi... evasione. No, non è evasione, è resistere. Credo che ti manda KO. Cioè, sei morto, però sei svenuto. Io cane. Posso. Sei svenuto, non morto. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Allora a posto. Ok. E il prossimo che ho sulla lista è Erindor. Di 10 più 3, quindi sì. Ok. Non basta. Prendi anche tu 2 di 8. Prendi 7 danni e rimani a 2 di vita. Poi ho Gideon. Ma aspetta, con Eric. Allora, puoi far questo è per evitare, giusto? E poi prendo un di 8. E non lo eviti, quindi prendi 2 di 8. Okay. Prendi 8 danni. Pianici, ma con Eric. Che culo, io per te. No, che palle. Allora... Aggiungo S con help, aggiungo S il risultato del test. A Donen non basta il bonus che gli dai. Se gli dai più 4, arriva a 13, deve fare 15. Quindi no, poi hai basta. Una singola reaction, quindi conviene che te la salvi per te stesso? Ora vediamo. Se qualcuno muore, forse è utile. In ordine c'ho Ivan. Ivan è uno che può morire qua. È di 10 per... Sì, di 10 più la tua dialettica. 7 più 2, 9, prendi 2 di 8 danni, prendi 3 danni, lucky da morire. Poi ho Naya. Vai Naya. Un di 10, giusto? Sì. Prego Naya, non fare la merda. 6 più 2, 8, anche con l'help non lo pari, prendi 8 danni. Ma non posso neanche usarlo. Sì, è vero, non puoi usare lo stesso. Vabbè. L'unico a cui lo potevi cancellare è Erindor, e qualcosa mi dice che non lo farai. Non ho ancora visto Zanzan morto. No, Zanzan non succede questa cosa qua. Cioè... No, non la dice se non sa, se Naya sa o meno che... Naya non lo sa ancora. Già. Piazza Naya. Questi sono per Limp. E questo è solo di miei roll? È per la vita dell'imp che non ho rollato prima. Ah, ho rollato 5 di 5. Pardon. Vabbè. Ok. E... in realtà qua è finito il giro, quindi tocca all'imp. L'imp si scaglia su Gideon e ti attacca 5 volte. Ne ita 2. Okay. Ti fa 2 danni. Ok. E poi ti lancia contro un ingranaggio. Devi resistere tu. La difficoltà è 12. Sempre con la dialettica. Sempre di 10, sempre dialettica. Ok. Tondo. Perfetto. Lo eviti. Tocca ad Eidos. Che ha visto Ivan raccogliere l'affare. E continua a bestemmiare le divinità antiche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E corre fin qua. Io gli bestemmio contro. Corre fin qua, quindi finisce il suo turno correndo lì. E ti prende, cioè ti mette una mano sulla spalla, non ti sta attaccando. Ti dice, non sai cosa stai facendo, fermati finché sei ancora in tempo. È più un mostro. Gli faccio il verso. Tocca ad Adore. Ok. Non è svenuto. Giusto, pardon. Tocca ad Ivan. No, questa canzone. Di nuovo. Senti come un richiamo venire dall'oggetto di luce nella tua mano. Che richiamo è? Quello di usarlo come fosse un manapenny. Come fosse un'arma. Ma se lo scarico può... cioè... segui la voce. I do that. Uso. Sono scioccato da quello che è successo con Zandan e l'unico pensiero è devo portare questo coso mi a dai, Ren. Mi concedi di farlo io o lo vuoi, cioè lo vuoi descrivere tu? No, vai pure. Io. Ivan, come posseduto da una forza superiore, tende il braccio, punta la sfera di cerchi di luce verso Eidos e rilascia l'energia che contiene e crea un cono di fiamme che incenerisce quello che rimaneva vagamente in piedi nella casa e brucia pure Eidos, che non può evitare sta roba qua. Gli hai fatto notevoli danni, l'hai proprio bruciato di brutto. Questa è un'azione base. Posso usare un'azione extra e tirargli un calcio, I guess. Sì, rolla di 10 per colpire. Ah, ma è ancora in piedi. Ma vabbè. Rolla. Ti faccio fare un D4. Vai, un D4 più 2. Gli fai 5 danni, gli tiri un calcio nel ginocchio. Vedi che si accascia. E hai ancora un'azione base con la quale in teoria potresti tirargli un pugno. Dai, momento shonen, gli tiro un pugno in faccia. Vai, di 10 di nuovo. Altro di 4 più 2. Madonna, stai davvero usando il pugno dell'amicizia. Sì, la canzone. Non so se vedete quanta vita c'ha. Sì. Ok, questa è la situazione. Tocca a Gideon. Anzi, no. Kael? Sì. E anche secondo me l'ha schippato Kael, vero? Sì, però non può darlo lei il colpo di grazia. Bene, tocca a Gideon. Aveva provato a toccare il sigillo e poi ha fallito. Siamo nella merda. Sì. Tocca a Gideon. Io casto Destroy sull'Imp. Quanto lo posso castare? È l'ultima. L'ultima, vabbè, dai. Vai. Andiamo via con gloria. Ho smesso di segnarvi l'esperienza, vi dico la verità. Ora provo a ricordarmi cosa avete fatto. Lo polverizzi. Ok. Guadagnate tutti un altro punto esperienza per sta cosa qua. Si può fare male. Posso hand per curare Adone? Posso muovermi? Adone ritorna... Sì, poi hai un'altra azione per muoverti. Recuperi 2 di vita ad Adone, quindi... Adone ritorna in forze, cioè abbastanza da potersi muovere, quantomeno. E quindi al priorità 0 farai il turno, Eddie. Ok. Sarei su Zanda, mi metto qua. Ok. E tocca a Naya. Ti ho fatto la roba di Bright Hands. Cosa vedo da qui? C'è una finestra. Quindi riesci a vedere che sta andando mezzo... Hai visto Ivan fare una roba strana e avvolgere in un cono di fiamme Eidos. Eidos che è quasi morto, nel senso proprio non si regge in piedi. Sta bruciando, ha ferite ovunque, sta sanguinando da ogni poro della sua pelle. E... basta. La parete è ancora lì? La parete da questo lato sì. Però ci vedi abbastanza da poter fare quello che vuoi. Però mi sembra stupido chiedere la finestra. Cos'è che non sappiamo? Allora dicelo, però non mi sembra il caso. Sì, da... Cioè, non mi sembra... Se ti muovi vedi Zanzan. Se ti muovi di un metro a destra, cioè di un paio di metri a destra, dove c'è la finestra. No, dai, cioè, penso che Naya vede comunque Adone accasciato morente a terra e vada ad aiutarlo. Ok. Cioè, l'hai già guarito con Bright Hands. Sì, ok, però tipo un HP. Come vuoi. Il prossimo turno è quello di Kael e le faccio lastitare il boss. E poi si stila tutta l'esperienza. Sì, attacca. No, dai, non lo farebbe, raga, porco dio. So sweet, però... Però non c'ho più un cazzo per curare, porco di quel dio. Già, Terox. E boh, uso Invoke Fate a sto punto, vaffanculo. D6. cade un sasso sulla testa di Aidos. No! Dai, Horoscope. Un pianoforte. Dai, porco! Sta arrivando. Hai un mazzo di tarocchi? Dio cade! Sì! Sempre! Mescolalo e estrai una carta. Oddio, oddio, è vero, oddio. Ci speravo. Allora, facciamo le cose come si fanno. Si fanno bene. Ne peschi una sola. La canzone d'anime shonen. Vogliamo fare delle scommesse prima. Quante sono le scommesse che prende una... prende Expellible e lo uccide comunque? Dio porco, spero proprio di no. Ierofante. Dai, iniziate a scommettere. Dai, secondo me pesca il diavolo. Impiccato. Sono tante. Bello. Le carte. Sono 78. Morte. Bello. Va bene, nessuno scommette, va bene. Allora, peschiamo. Dai, dai, pesca. Dimmi quando... Boh. Ditemi stop. Stop. Ok. Dimmi stop. Stop. Regina di denari. Regina di denari. Re... denari. Donna. Casti growth. Penso ci fosse una spell più inutile. Veramente. Ottimo manuale. Hai presente che... Godo. C'è un albero dietro di te. E c'è veramente nella mappa l'albero. E l'albero è stato danneggiato dagli ultimi avvenimenti. E Naya lo tocca e lo fa ricrescere, guarendolo dalle ferite che ha subito. L'albero è così felice di essere cresciuto che fa cadere mi... Vabbè, parte... No! Mi... Fa cadere un ramo sull'aria. No, fa cadere un ramo su Aido se lo uccide. La pigna. Fa cadere un di quattro frutti, ciascuno dei quali recupera un PV. Oh, ok, va bene. Sì, hai quattro frutti che fanno recuperare vita. Tocca a Keyel. Keyel non si fa i problemi che si fa Naya e gli spara. No, oh, vai Keyel. Sette, lo missa. No. Posso usare help per non sta troia? Attacco. Non è un test. Dio porco! Tocca a Derrida. Dovevi avvicinarti e fare tipo cavallo che si è rotto una zampa. Fare robe di kung fu strane. E... Erendor? Posso arrivare fino a qui? Sì. È sotto tiro? No, vabbè, se arrivi lì, corri, vuol dire che non fai nient'altro. Sì, la parete, questa parete qua non c'è più. Ah, ok. No, fin dove posso arrivare per averlo, provare a sparargli? Ok, lì, esatto. Ok. Dai, spara. Meno 5. Meno 5? No, no, ok. Devi fare 12. Devo fare 12. Cioè 10 e poi non 1. Sì, vabbè. C'è Gideon di mezzo. No, no, non c'entra. Ah, ok. Vabbè, allora. Okay. Un di 10 meno 5. What? Tira un altro di 10. Non ci credo. No! Tondo! Non ci credo. L'ha fatto tondo. Ma raga, ma che cazzo è? Mi rolli un di 12 danni. Dai. Madonna. Spari alle spalle di Aidos. E lui non aveva nemmeno notato che tu fossi lì. Era impegnato a guardare l'oggetto nella mano di Ivan. Lo colpisci in testa e per la quarta volta in questa campagna, suppongo, una persona viene trafitta alle spalle da un proiettile e la sua testa si spacca. Proprio come un melone colpito da un martello. E avanti a me. Sì, che vieni travolto dal sangue. Ivan si sta divertendo tantissimo. Aidos rimane in piedi per un secondo, poi cade in avanti verso Ivan. Vuoi, cosa vuoi fare, Ivan? Vuoi afferrarlo? Vuoi lasciarlo cadere? Fare un passo indietro? Continua a prenderlo. No, lo prendo. Quando lo afferri con un braccio solo, perché con l'altro hai quella strana sfera, si trasforma, ok? Inizia a... come se dei vermi fossero sotto la sua pelle. E yuck! I vestiti cadono per terra e del suo corpo rimane solamente un feto. What the fuck? Ok? Quindi con una testa molto grande, sproporzionata, e il corpicino non del tutto formato. E hai questa cosa in mano. Cioè, è veramente piccolo, ti stai imparando. What? I am a father now. Ti chiamerò Zan. Lo crescerò con i valori giusti. Esatto. Ti chiamerò Zan. L'incontro è finito. Quindi da ora in poi ditemi voi se volete continuare o se è tardi e volete andare a letto. Andare a dormire. Tardi. Andiamo a dormire. Bene, la chiudiamo qua. Wow. Okay. What? Siamo di